I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. A Gigi, ma che sta a cucinare sul barbeculo? Sul barbeculo? Sto a cucinare la sarciccia. Oh, sarciccia! Ma che sarciccia è? La sarciccia de maiale? No, la sarciccia de manzo. Sarciccia de manzo, la sarciccia del porco bue. No. This podcast has been produced with Pod Cleaner. Italian Podcast Network presenta Fatality. Dietrologia videoludica. Il lato B dell'industria del videogioco. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, bentornati a questa ultima puntata di stagione, perché insomma alla fine, come si sa, a luglio tutti al mare a mostrare le chiappe chiare, e per fare questa puntata che ci tenevamo tanto a buttarla un po' in caciara, tipo festa di fine anno, e soprattutto perché tanti ci tenevano ed erano ansiosi a salutare tutto il nostro pubblico, siamo veramente una cagnara di persone. Sento qualcuno nel mentre sta giocando a ping pong nel frattempo, però quindi vi raccomando un po' di educazione. Allora, io inizio dalla mia destra, quindi dal rappresentare la persona che è qui, insomma, fisicamente accanto a me, ed è Marco fucking Chandrom, Roma Gualdi. Vabbè, la storia di Marco. Ma sì, dai, Marco Gualdi. Comunque sì, abbiamo deciso di fare questa puntata dove si farà cagnare al contrario delle altre puntate. Che si fa sempre risposte precise. Sì, quindi abbiamo deciso di chiudere un po' a cazzarella. A cazzarella. Perché è giusto, è estate, basta. Io direi che chiudiamo anche la trasmissione a questo punto, per sempre. Per sempre. Basta. L'abbiamo fatto con Archeologia Videoludica, possiamo farlo. Possiamo anche fare questo. Così a sorpresa anche per DVL. Anche perché sapete che ha partecipato Caliendo per due puntate consecutive, e ormai la trasmissione deve chiudere. Assolutamente. Salutiamo tra l'altro Cristiano Caliendo, che è sempre in quelle sue fasi un po' impicciato, insomma noi facciamo sempre il tifo per lui e gli vogliamo tanto tifo bene. Nel senso di malattia, ovviamente. Iniziamo a presentare anche gli altri partecipanti. C'è ovviamente Carlo fucking Sound Burigana. Yeah, well, yeah, fuck yeah, the sister. Ok, detto questo, buonasera a tutti, sono Carico questa sera. Dai, facciamo un po' la puntata, tipo, sai, i vecchi conduttori della radio, no? Dai, forza. No, dai. Vabbè, poi ve lo dico dopo. Finiamo di presentare. Sempre a Roma, chiaramente, è quasi, insomma, una presenza indispensabile. Oramai è diventata in Dietrologia Videoludica e anche gli altri podcast di APN. Ci abbiamo Giuseppe, l'opinionista Saso. Buon salve a tutti. Io comunque ci tengo a dire che vengo dopo Carlo, perché ormai lui è diventata la rockstar di DVL, anzi di tutti i podcast videoludici di PN. È il Messi, grazie. È il Messi di esatto, cerchiamo esatto. Cerchiamo anche di vendercelo noi, piano piano, perché vedo esatto. Che tutti lo corteggiano, tutti gli dicono esatto. Quanto è bravo Carlo, quanto è caruccio Carlo. Tante carezze mi hanno fatto, tante... anche un po' l'importante è che non ci fai incazzare, perché altrimenti potrebbe pure futuro fare alla fine video così. Esatto, no? Esatto. Sai, come noi noi abbiamo creato da... e ti possiamo anche distruggere. Va bene, e salendo un po' più su abbiamo invece Gianluca, Mr. Santilio. Ciao, ciao, ciao anche da parte mia. Beh, in questa puntata dopo quella ad alto contenuto umoristico dell'ultima di quella Vieri, sì, allegria insomma, ci sta. Profonda, sì. Ci sta, esatto. Ci sta, però dai, vediamo se riusciamo a bissare quel tasso. Se vuoi io puntata. Inizio a parlare così perché insomma, no, dai, però il problema è che sì, Gianluca Sentino non sono riuscito a iniziare a inferire un fuck in qualche cosa, non so. Hai visto? Ma sono infuckable, esatto. Praticamente. Gianluca, ma grave, no, dopo com'era quello là che non si poteva rompere lì, com'era? Unbreakable c'è anche Unbreakable. Dicevi esatto. No, l'unica curiosità che ti volevo chiedere, Gianluca, è se stavi sei in collegamento direttamente dal tuo archivio. Eh sì, sono qui nel mio archivio con mi stanno trollando parecchio per questa cosa, però vi invito comunque al mio archivio, poi quando volete vi aspetto sul mio canale, mi faccio già pubblicità in avanti. Bene, ma saliamo ancora un po' e abbiamo chiaramente da quelli di Avalon, lì dove c'è la nebbia e roba del genere, abbiamo anche Alex fucking pop cleaner Raccuglia. Asarciccia, già dire Asarciccia, sarò un po' ma, ciao ragazzi, ma, che bello essere qui nella puntata finale. Ma non era Gotham City, Alex? Ma pensavo allora, che stessi voi non avete nella capito, città del crimine. C'è riscaldamento globale, la nebbia non la vediamo più da anni noi. Non c'è più la nebbia, vero, appunto, tempo, è quanto finita. Faceva Milano oggi? Io sono andato ad allenarmi che c'erano 34 gradi alle 8 di sera. Verso il pomeriggio ce n'era 37 circa. Percepiti credo che fossero stati tipo 85. Beh sì, con l'umidità insomma. D'altronde c'erano 33 gradi. Allora io non sono sicuro di quello che sto facendo, però saliamo ancora di più e ci dovrebbe essere anche Stefano fucking Brain Damage Biggio. Non c'è. Ci sono. Ma potrebbe esserci. Ci sono, non c'è. Quindi, no? Stefano, io lo vedo online, collegato. Sì, pure io. Guarda, adesso lo cacciamo e lo richiamiamo. Proviamo. Facciamo finta che ci sia. Insomma, ciao, chiamiamo. Stefano, come vai? Vabbè, fa tutto bene. Qui in Svizzera va tutto bene. Qui va tutto bene. Allora, ho sbagliato un'impostazione di Skype. Ero convinto che mi sentivate tutto, quindi avevo tipo il volume basso, eccetera. E poi quindi tu stai registrando, era così basso che era zitto. Perfetto, ok, va bene, quindi saluta anche tu il pubblico in questa festa. Ciao. Fantastica, sono entrato dicendo Burighena, team Burighena, salvate PSD, sì, sì, save PSD. Hashtag, ma hanno fatto le petizioni in tre, ma le hanno fatte, esatto. Beh, io apprezzo, c'è anche qualcuno che è andato sotto casa di Burighena con le torce, tutti incappucciati. Burighena devi morire, mi hanno tagliato le gomme della PSD. Macchina. Cioè, le cose brutte, sì, io direi di lanciare la campagna PSD PD2 2 Asarciccia. Potremmo fare veramente una puntata di Passione Sound Design su Asarciccia, che sarebbe fantastico. Sound Design Asarciccia. Vabbè, noi stiamo insultando un'opera che veramente lui ci ha messo l'impegno, però come abbiamo già basta. Ho capito, però basta. Vabbè, diamo i riferimenti, poi ne parleremo un attimo. Che ridiamo a fare? L'ultima puntata. È l'ultima puntata. Quindi, se ascoltate questa puntata, l'avete sicuramente ascoltata tramite www.dietrologiavideoludica.it oppure vedendo insomma la pubblicazione sulla pagina Facebook OG Plus, sempre Dietrologia Videoludica, oppure tramite il nostro fantastico e simpaticissimo Twitter che è @dietrologiavide, che qui continua a scrivere video. Ludo, non so perché quale... l'ho detto sbagliato per alla prima 45 volta. Esatto, quindi deve rimanere quello. Dovete sbagliarvi. Allora. Oppure possiamo reclamare quel dominio per giusta causa, praticamente. Sì. Esatto. Ringraziamo, ovviamente, questa è una trasmissione che abbiamo coprodotto noi di Italian Podcast Network insieme a All Games Italia e Retrocast, in particolare con Retrocast. Infatti, All Games Italia l'abbiamo fatto con Retrocast e l'abbiamo fatto con il Retrocast. Esatto. Poi se volete scriverci per dirci che non volete che DVL chiude, non volete che Passione Sound Design chiude, roba del genere, potete tranquillamente scriverci anche a dietrologiavideoludica@gmail.com. Come abbiamo detto, insomma, questa puntata siamo veramente un fracco di gente, quindi cerchiamo un attimo di dare un po' di ordine a questa puntata, dove in realtà gli argomenti saranno pochi, sarà veramente per farci due risate. Però chiedo subito, prima di lanciare lo stacchetto, chi è che ha un eccesso in anticipato? Qualcuno ce l'ha? Batman. non è un accesso anticipato, lo so, però quello no, prima video, no, dire, no, aspetta, però se stai giocando video, la versione PC, ah, quella è prima dell'accesso anticipato, è tornato un accesso anticipato, esatto, no, no, no, no, no, no, non è vero, volevo solo dire Batman. Voleva dire Batman. Io sono Batman. E, niente, poi se volete vi spoilerò il finale comunque. No, grazie. Ma del videogioco? Del videogioco, del videogioco. O del film? Film? Che, quali film poi? Ti sento bassissimo però, Simone. Va bene, alzare. Mi senti? Ecco. Va bene, sì. Dai, alza un po'. Alza. Qualcosa. Insomma. Un primo avvio. Qualcosa. Allora, lanciamo un primo avvio. Primo avvio. Esatto. Quindi c'ha 3 minuti no, e mezzo di tempo. Come supera i 3 minuti? Vai. Se allora, boh, buttiamo giù. Penalità. Esatto. Ok. No, il primo avvio è Sunset, che se ne è parlato abbastanza ultimamente perché è l'ultimo gioco commerciale, almeno così dicono, dei Tale of Tales, che sono questo duo praticamente di sviluppo che ha sempre fatto giochi pseudo artistici, insomma, ci tenevano tanto a fare questo, a seguire questo tipo di progetto. È andata malissimo, peggio di quanto sia andata con i loro esperimenti precedenti dal punto di vista commerciale, nel senso che hanno venduto tipo 4.000 copie compresi i saldi di Steam, quindi insomma è arte, però grandi è successi, però è arte. Però ti dico una cosa, è un gioco molto bello, non voglio dire capolavoro perché magari sono termini troppo soggettivi, però comunque parla della storia di una domestica che americana che va in Cile, in una città del Cile dove c'è la rivoluzione praticamente in atto, e tutto il gioco è ambientato nell'appartamento di un diplomatico locale che insomma la sua storia vive la rivoluzione dalla parte dei cattivi, diciamo, lei invece dalla parte dei buoni perché suo fratello è proprio un rivoluzionario attivo, un attivista, e quindi noi potremo interagire con questa persona senza mai vederla perché noi dobbiamo semplicemente mettere a posto la sua casa, pulirla in un'ora prima del tramonto, quindi da qui il nome di Sunset. In quell'ora potremo lasciargli magari un biglietto, potremo sistemare i quadri in una maniera tale da comunicargli qualche cosa, e con puoi tutte rubare. Queste maniere puoi rubare, no purtroppo, però ti puoi prendere degli spiccioli ogni tanto, vabbè, qualcosa rubi e quindi poi si scopre, è bello perché senza mai vedere questa persona tu scopri la sua personalità, no, perché che cosa pensa, che cosa fa, e quindi c'è poi questa sorta di comunicazione epistolare o tramite gesti molto molto unica, molto particolare, mm-hmm. E alla fine puoi cambiare, puoi incidere sul finale, poi le tue azioni, le tue scelte, anche se ti sembra di non farle, in realtà le compi in determinati punti e va a definire il finale e la storia in generale. È un'esperienza sono sempre i migliori mai che provata in nessun altro tipo di gioco. È un peccato secondo me che i Tale of Tales escano dal commercio del videogioco, insomma, perché comunque hanno delle idee secondo me molto forti, molto molto belle, però c'è da dire che hanno sbagliato tutto dal punto di vista commerciale perché hanno venduto questo gioco a 20 euro Megoglione. Ed è una stanza praticamente, Megoglione. Capito? È un appartamento. Senti, ma domanda seria, secondo te sì. Questi Tale of Tales, giusto? Sì. Hanno subito l'effetto archeologia videoludica in qualche maniera? Secondo me, cioè, sapendo che tutte queste cose stanno chiudendo, sì. Passione Sound Design sì. Pure la io pensavo karma, la stessa cosa. È il karma di archeologia. Bravo, bravo, esatto. No, Gianluca, domanda invece non seria. Non seria. Così già lo sai subito. Ma questo governante che risistema la stanza un'ora prima del tramonto, si scopre alla fine che è la vecchia di merda di The Graveyard. Quando era un po' più giovane, sì. Ok. È lei, è palesemente lei, guarda. A me piacerebbe, okay. Veramente fa questo gruppo qui di stasera fa una trasmissione sulle serie televisive, ci sarebbero un sacco di cose da dire. Oddio. Va bene, dai ragazzi, qualcuno l'ha giocato, lo vuole commentare? Facciamo fare un commento a Marco sulla sguattera. Bella merda. Lo sapevo, vabbè, che so, che vabbè, Stefano, diciamo che gli è piaciuto. Stefano ci hai giocato. Io non sono sentito parlare, ma non l'ho toccato, non mi sono avvicinato né niente. mi spiace, insomma, come software house, però no, secondo me hanno venduto più adesso dicendo che smettevano di è fare quello il gioco. Infatti. Cioè noi non abbiamo mai ricevuto genialata. Mai tante mail di dispiacere per la chiusura di archeologia videoludica esatto. Quanto durante come quando avete chiuso. Esatto. Come quando l'abbiamo detto. Esatto. Chi perché quella che chiudiamo. Oh, oddio, no, no! Però è un peccato. Vabbè. Vabbè. E sono quelle cose che hai per scontato, non è che ti mettevi a mandare email alla LucasArt. Anche, chiuso anche, e tutti bravo. A dispararsi, bravo, esatto, bravo. Nessuno ha detto un cazzo. Sì. Forse qualche mail per consigliare di chiudere archeologia videoludica è arrivata invece. Io vi suggerisco di chiuderla. Va bene, chiudiamo. No, dice, no, assoluta, ragazzi, se sta scherzando. Mm-hmm. Vabbè, sono ragazzi. Vabbè, dai. Allora, se qualcuno vuole dire altro, se no andiamo direttamente alla focus della questione. No, direttamente alla fine. Sì. Ok, allora sì. Andiamo avanti con la rubrica più importante che è Dateli Focus. Osservatorio dietro ludico. Allora, come abbiamo detto, questa è la puntata di fine stagione e invece di affrontare insomma temi approfonditi come facciamo di solito, facciamo un attimo una panoramica generale su quello che è stato, su quello che è e quello che sarà. È fantastica questa cosa, un po' trascende insomma. Allora Marco, di che cosa vogliamo parlare nel primo punto di ideologia videoludica? Così ti coinvolgo perché vedo che te le stai fottendo. Assolutamente, questa puntata così priva di non lo so base, sostanza di esatto. Cioè così un po' a cazzarella, lo sai che infatti Sambu piace. Quando leggerà che il titolo è Le Chiappe Chiare dirà, contesterà subito dicendo però la puntata ma però le puntate a Chiappe Chiare non va bene, insomma. Io lo sappi che con questo titolo potrò fare un SEO da paura. Cioè, Chiappe Chiare, una un'indicizzazione da paura. Esatto, vabbè. Potremmo comunque anche chiamarlo culo chiaro, che è meglio ancora. No, però, scusa, chiappe. culo tette estate. Come estate io. Bene, la 3 18 culo tette milf. Che ci sto. E lì ne va poi click per sbaglio, a voglia 10.000 e 10.000 di puntate. Sì. Vabbè, vai, Marco. Comunque, in questa puntata noi vogliamo fare quello che si fa in tutte le ultime puntate di stagioni, nonché di serie, quindi fare un sunto di quello che è stata l'anno. La stagione. Come è stato l'anno? Come è andato? Vi è piaciuto? Ma la stagione in termini videoludici o dietrologia videoludici? Nostri. Facciamoci i cazzi nostri. Come dietrologia, esatto, tu dici. Sì. Che stagione è stata? Bene, questo è interessante perché questa è la stagione poi tra l'altro più ricca di episodi, sono arrivati quasi a 6, no, po' di 18, no. 18 su 9 esatto. mesi, insomma, quindi sono veramente quasi due puntate al mese, insomma. Quindi iniziamo da Santilio che è il più fresco, diciamo. Il più fresco. Esatto. Infatti. No, beh, secondo me è stata una stagione di maturazione seria proprio per archeologia videoludica, nel senso che sì, lui infatti sta partendo da dietrologia per arrivare piano piano a dietrologia videoludica. Esatto. Ma lui ricordate che è l'autore di Incamporella, cioè una delle più belle puntate. Esatto, che è stata una delle puntate più simboliche. Ha riassunto praticamente tutto il senso di dietrologia videoludica. No, vabbè, secondo me è stata una puntata di una stagione più matura rispetto tipo a quella dell'anno scorso, che comunque ho seguito, mi è piaciuta, però insomma anche dal punto di vista del team questa volta ci si conosce meglio, vabbè io non partecipavo all'epoca, però comunque l'ho trovata anche più seguita, penso. Poi magari voi avete visto i contatti più sì, quest'anno rispetto alla seconda stagione è andata molto meglio, è andata molto meglio, e quindi no, bene, secondo me è un podcast che comincia ad avere una forma definita e ci divertiamo a farlo, quindi questo penso che sia in assoluto il sintomo migliore di salute di un'attività che chiaramente ci dà molte soddisfazioni economiche, però la facciamo anche per sì, passione, sì, soprattutto per passione, ma i soldi come sapete cari pubblico non guastano, servono mai. Non ci fanno schifo. Invece sentiamo Alex che invece lui ha una visione più esteriorizzata. La visione da vicino, diciamo. No. Da uno che ti guarda. Già capito. Te guarda. Allora, Si è evoluta di DVL da quella che era la prima stagione, che poi è durata due anni. È vero, perché in realtà questa sarebbe in teoria la quarta stagione, in teoria sarebbe. Esatto, ma siccome noi siamo atipici facciamo queste cose così. Sono dei flash sideways come Lost, capito? Sono esatto. Cose, ma quante ne sa questo cazzo di uomo? Cioè, visto. Che figo, che sentire parlare Biggio è sempre una cosa che fa bagnare le mutande, ragazzi. Ma in senso positivo o negativo? Dipende da che lato si bagna. Esatto. Allora, si è evoluta ed è diventata più variegata, nel senso all'inizio di DVL era effettivamente la compressione di archeologia videoludica e di retrocast schiacciate insieme ed era quello. Poi con l'aumentare delle persone che ci partecipavano, insomma, lo spezzettarsi dei temi, indipendentemente da Mass Effect, è diventata una cosa in cui ogni puntata è una cosa a sé stante. Per cui è come diciamo, la prima stagione ha impostato il format e dalla seconda, soprattutto in questa terza, ognuno si è preso la libertà di prendere il format e di rifarlo a modo suo, che denota la sua maturità. Ok, Stefano? A me, ad esempio, è piaciuto molto lo dissi a suo tempo l'idea che avevate avuto per questa stagione, diciamo. Quella di inquadrare le ultime 5, non so, esatto, cioè di fare le cose più divise a settori, che secondo me la rendeva più veloce come ritmo e dava anche la possibilità a più persone di esprimersi, cioè nel senso, dato che le cose non sono completamente in diretta, tra virgolette, le cose non avvenivano tutte in contemporanea, c'era la possibilità di partecipare tutti senza avere tutti i problemi che uno che vive ha, diciamo. Quindi, tipo questo momento che siamo con una conversazione a rischio, diciamo così, no? Appesi ad un filo. Esatto. Però sì, secondo me non ha detto male il fatto, la strutturazione di DVL secondo me è stato un po' un piccolo è stato un po' l'arma segreta quest'anno per certi mi è piaciuto molto, babà. E poi ovviamente con gli assets di Carlo. La potenza. Bravo Carlo, non si va di lasciarci russo, mai. Non smettere. Team PSD. A questo punto io passo, esatto, a Carlo e poi Giuseppe. Ma io sono d'accordo con tutti voi, nel senso le rubriche modulari sono state una grande cosa carina, secondo me. Anche, non lo so, ha assunto anche un po' un respiro, passami il termine, radiofonico. Insomma, questo ovviamente per un'idea di, diciamolo, insomma, di Simone, di Marco, insomma, del core, diciamo, del team. Poi ovviamente, insomma, ha portato sicuramente i suoi frutti, anche un po', diciamo, mi faccio un po' la pippa da solo per passione sound design, sicuramente anche quella ha contribuito, alzare anche un po' il tiro, insomma, di quello che poteva essere magari un'utenza che magari ascoltava il podcast magari per divertirsi, per rilassarsi, per sentire noi che chiacchieravamo così del più e del meno sui videogiochi, però comunque, se vogliamo, anche abbracciato quella che è l'informazione, no? In qualche modo, no? sul videogioco, quindi per cui ci sta, insomma, siamo cresciuti da questo punto di vista. È stato questo, no? Cioè la struttura e la qualità, anche dal punto di vista tecnico, e soprattutto magari una rubrica come Passione Sound Design, che comunque era diventato poi il fiore all'occhiello. C'erano anche i Girotto Gamers, diciamo. Infatti, io la domanda dopo è: che devono tornare o no? Esatto, perché se no facciamo le doppie petizioni. Quindi dopo, no, ma soprattutto chi volesse buttare dalla torre PSD o Geronto Gamer? Esatto, è a sorpresa, in qualche modo vincerà Geronto Gamer. È un po' come decidere chi volete tenere libero tra Gesù e Barabba. Geronto Gamer, io le adoravo quando ascoltavo ancora il podcast senza parteciparvi, insomma, però adoravo proprio Geronto Gamer. Per me, io mi ricordo ancora la prima mia partecipazione a Geronto Games, è stata proprio fenomenale. Posso fare della polemica, che non sono mai stato interpellato per i Gerontogamers, nonostante sia qui dalla... È vero, è colpa di Marco. Purtroppo Marco, come aveva promesso Mario Monti, e poi dai, l'anno prossimo, se no chiudiamo la trasmissione, se continuiamo a fare il Gerontogamers ti faccio fare la puntata da solo. Vabbè, però 50 sfumature di un vecchio Stefano, esatto, tu però c'avevi le tue rubriche esclusivi, c'avevi 50 sfumature di Biggio, cioè c'avevi poi una cosa. A questo punto ovviamente mi sto intromettendo io per parlare, no, poi toccava a te, mia. Esatto, ma io sono già un anziano, pure, capito, non devo neanche c'avevi fare... pure una grandissima rubrica di, se vi ricordate, di Incipit che abbiamo cassato verso la fine della seconda stagione. Ancora la gente lo dice. Imparare l'italiano di Stefano. Tu ci scherzi, perché noi quando abbiamo deciso di fare poi questo nuovo format, che eravamo tutti riuniti a casa di Giuseppe, in realtà eravamo molto decisi, mi raccomando, avete sentito quello che ha detto Simone, questo format non è che è nato così dall'oggi al domani a cazzarella. No, ci abbiamo ragionato tanto, c'è stata veramente una serie di incontri, non solo mangerecci di brainstorming dietro. No, però ecco, cioè, abbiamo pensato, ecco, a Marco gli è venuta l'idea delle 50 sfumature di Biggio, esatto, perché noi pensavamo che questo podcast in qualche maniera si fondava sulla presenza di Stefano, perché la presenza erotica erotica folcloristica, sì, anche un po'. Allora senza una rubrica di Stefano il podcast perdeva qualche cosa, però allo stesso tempo nella struttura nuova che avevamo dato per velocizzare ci eravamo resi conto che imparare l'italiano era troppo non ci stava a fare niente, stava però dal mio punto di vista bisogna buttare della torre PSD Geronto Gamer, se anche il focus è lasciare soltanto il video che parla l'italiano, assolutamente, ma tutta la vita. Vabbè, se siete venuti qui per prendervi per il culo. No, io sono serio. Poi non so se avete notato, comunque paradossalmente, come questa struttura che all'inizio dice può sembrare un po' senza modulare, però senza le cose interconnesse tra di loro, in realtà come andavano un po' si parlavano tra di loro, entrava in sinergia e ci ha permesso paradossalmente, nonostante trattavamo di tante cose per puntata versus mega monografia da 3 ore delle prime stagioni, di comunque comprimere sì la durata media degli episodi della terza stagione, però di parlare di più cose e di parlare di cose che comunque più focalizzate ma siamo riusciti nonostante più focalizzate, ma siamo anche riusciti nonostante questo a lasciare anche più episodi, e lasciando più episodi a poter parlare anche, cioè potrei saltare, che so, abbiamo fatto, se vi ricordate, puntate anche magari su quella su Due Order, quella su Kojima eccetera, quindi cose di attualità, ma anche magari di tornare, che so, sui giochi italiani, sulla musica, sulle nostre soundtrack preferite, sulle serie videoludiche, quindi abbiamo potuto insomma parlare anche dei temi più disparati senza doverci attenere a un impostazione univoca, no, monolitica. Sì, ma che poi secondo me sta questione della struttura, qui ci facciamo un po' una pippa anche noi, in realtà funziona perché mediamente comunque le puntate stavano sotto l'ora e mezza, ovviamente le puntate un po' più lunghe, quelle che strabordano un pochetto, tipo questa che sarà più piccante, però ma non è detto. Tu Marco invece che ne pensi, che non hai espresso la tua? Ma io penso che questa cosa modulare, chi l'ha inventata è un idiota. Capito, come mi sei venuta in mente una cosa del genere. È vero, è vero, tu poi non ne sai niente. Assolutamente no. Comunque, in realtà, ecco, vediamo un po' la domanda così a giro bruciapelo, che non è nel contesto, però mi è venuta così in mente. Qual è stata la più bella puntata o le due più belle puntate di DVL di questa stagione? Iniziamo da Alex. Ostia pelosa, bella domanda. Chi se le ricorda? Che adesso, siccome sono anziano, confondo anche le stagioni, direi. Cavoli, Basta che vai su IPN e cerchi il tag di Etologia Videoludica, così vedi solo i podcast. Sei veramente bravo, sai, non ci avevo proprio pensato. Stavo andando adesso. Se vuoi nel frattempo ti copro io, se stai cercando. Vai. Vabbè, io ne dico solamente ovviamente due della terza. Dico anche episodi in cui non della terza comunque. Non sono stato proprio molto predominante, non ci sono stato proprio. Quella ovviamente Non mi fai paura, che comunque mi è piaciuta molto, su Survival Horror, a cui appunto io non c'ero. E poi un'altra che mi è piaciuta molto è stata quella fantastica Tavola Rotonda, che è stata anche profetica, no? Per Hideo Kojima. È stata profetica, anche se non è andata nel core così come sì. come avremmo potuto darci di nuovo cosa. Simone, ma tu hai chiesto quelle che sono piaciute non quelle che hanno fatto più ascolti o più commenti, no? No, infatti è giusto. E comunque dico che secondo me della precedente invece la più bella in assoluto resta la 2X08 sul doppiaggio. Vero, sono d'accordo. Mm-hmm. Bella. Sì, è vero, ma no, in realtà sono state tutte belle. Io la mia preferita forse quella sulla musica, perché per me la musica dei videogiochi è il cuore, però veramente quella del doppiaggio e quella su Kojima, sì. Bello, è una grande stagione, devo dire la verità. Mm-hmm. Bravi. Bella stagione. Che bello essere qui con voi a cazzeggiare. Infatti, Gianluca. In campo sì, guarda, non... quella è la mia puntata preferita lì, io quella volevo dire, non frega per distanza. No, anche a me Non mi fai paura, mi è piaciuta come è venuta, insomma. Bella compagnia anche. E quella della musica mi è piaciuta pure. Mm-hmm. Quella a cui si riferiva anche Alex. Quindi queste due sicuramente. Poi quella del doppiaggio è la preferita in assoluto di tutta la di tutte le puntate di Etologia Videoludica, di tutte le stagioni. E che quella è stata una puntata importante, c'è una storia importante quella puntata, perché grazie a quella puntata che noi abbiamo ricevuto una mail di una persona che non solo poi ha iniziato a collaborare con noi, ma in realtà noi ci fregiamo di essere diventato un nostro amico, che quando tu conosci un amico in più è sempre una cosa positiva. Può sembrare una cosa super, perché di solito nei podcast dei videogiochi si deve dire solo merda e vaffanculo, invece noi in realtà siamo anche un po' sentimentali e diciamo insomma che è stata la puntata che ci ha fatto conoscere Carlo. Quindi un grande amico in me. Non te ne andare, rimani qua. Possiamo dire comunque sin da ora che la più brutta invece è stata tra tutte le stagioni quella su Existence, vero? Assolutamente. Ah, non lo so, quello dipende. Cioè, ognuno ha i propri gusti e i propri fan. Comunque, Stefano. Sì. Allora io ci metto. Sì, lo so. Ritmo, Stefano. Era ritmo. Una pausa di suspense. Ok, su Spancer. Mamma mia, mi sta venendo la pelle d'oca al culo. Allora, quella della caporella, sicuramente. Quella regna sovrana. Adesso non per imbrodare. Posso dire che la gente non l'ha capita, però. Vabbè, perché infatti dici? Quella puntata lì non era un episodio da trasmettere, era uno scherzetto fatto. Lo so, però la gente non è. I videogiocatori non hanno senso dell'umorismo, lo diciamo? Io lo dico, mi prendo la mia chi risposta. Chi l'hai detta questa cosa? Da un'altra prospettiva potresti dire che il nostro senso dell'umorismo fa schifo. Quando mi sono trovato la registrazione Farlock che mi hanno dato loro. Ma perché era per te? Esatto. Era un omaggio all'intuizione, io l'ho pubblicata. Ma forse sì. E poi era primo di aprile, Cristo, ridete due. Esatto. Due spicci di risate, fatevi, dai, su. Simone, di la verità, ti è piaciuta molto perché ci hai speso poco tempo in assolutamente edito, sì, un quarto d'ora. Quindi, cioè, era bellissima quella, poi era già pronta praticamente. Cioè, si era desuola prima. Sì, assolutamente. Quindi, vabbè. Quella, l'episodio su Kojima particolare, sicuramente sì, appunto mi ripeterò, sarò banale, ma quello sul doppiaggio Per quello sul doppiaggio intendi quello, la pippona di 2000 ore che ho fatto io, sì. O sì, quello sì. lì aspetta, ci metto quello Sì, quello che ho fatto tu, ma anche quello sulle voci, sul doppiaggio di merda. Infatti, sì. Quelli sono per me due episodi indimenticabili. Quello doppiaggio di merda. Ma chi ci difenderà dalle forze del male? Ma, cioè, oggi, ma chi ci salverà? Giocando a Batman, c'è un personaggio che si chiama Jason di nome, e ogni volta che lo incontro dico, Jason. Senza lasciare, no, ma tu immagina che prima mi è capitato di vedere, per sbaglio stavo scartabellando, a un certo punto mi è capitato di vedere quel gioco Silence, no, com'era, The Silence, ma che cazzo, Moment of Silence. Esatto. Io c'è sto gioco, non lo ricordo, ho ricercato su YouTube Moment of Silence Ita e l'ho ritrovato, è veramente secondo me vince su tutti, cioè proprio è un capolavoro di bruttezza. Chi è che deve dire ancora? Io, per esempio, a parte in Camporella, che mi è stato inopportunamente rubato da quel sardo, hai rubato la esclusiva. Sei un po' come la PlayStation che ruba le cose alla Xbox. No, forse cattivo, è contrario, cattivo, diciamo, rubi le cose alla Xbox, cattivo, come gira, insomma, una cosa per la povera Xbox. Sase pure cercare, beh, giustamente. Comunque, no, a me è piaciuta quella delle colonne sonore. Anche quella è stata carina. Sì, perché in effetti erano tre anni che cercavamo di stava nel, no, quattro anni. Quello stava nel primo piano di editoriale. Tre stagioni. Tre anni. Lascia stare che sono quattro anni. Ok. E anche quelle su Dain, tutto sommato, dai, quella è stata divertente, ma in realtà un po' tutte. Non metto quelle dei doppiaggi perché io prendo solo quelle di quest'anno. Questo è sì, più che altro si era più concentrato su sta stagione, però va bene anche comunque in generale. Andiamo, sa che di a Marco di ricordarsi qualcosa prima, che sa malapena il mio nome dopo. Infatti, allora, ragione Fabrizio, prima che vuoi, io prima che passate a Carlo e soprattutto che chiudete sto punto, io ne devo dire una se non è stata detta perché merita, va bene? Ricordatevelo. Vai, dai, finisci subito, così poi... Ah, ok, io vorrei comunque anche ringraziare perché questa puntata è stata resa possibile grazie ai nostri anche corrispondenti del nord, leghisti, la grandissima puntata, quella anche sulla Games Week. Onore e applauso a Cesare Giraldi e al suo amico leghista, no? Sì, esatto. C'è anche Waking the Glares a questo punto, anche ringraziando Giuseppe perché alla fine abbiamo fatto questa intervista a questi ragazzi sviluppatori palermitani. Però visto che siamo nei ringraziamenti, non prima che ce lo dimentichiamo, perché tanto ce lo dimenticheremo, però c'è Carlo, ringraziamo anche il nostro Maldera. Maldera, è vero, Luca Maldera, che sarebbe Lucacchio. Che lui non l'avete mai sentito, ma se leggete gli articoli di DVL, insomma, ha scritto tante belle cose. Sì, quindi... sì, una cifra d'articoli. Diciamo che DVL c'è stato un anno in cui cominciava a sfornare un po' da tutti noi articoli. Poi, avendo visto che... Luca Maldera, questo non scrive, legge, no, no, no, avendo Luca, visto no, che tu andavi a vedere sugli articoli in pubblicazione c'era articolo sul videogioco, entravi a cura di Stefano Biggio, lo sapevo, io guarda, ti stavo aspettando, c'è scritto bla bla bla bla bla bla bla bla, è vero, perché io faccio la bozza e poi scrivo bla bla bla e poi tu fai la bozza, tu fai lo scheletro, che è diverso, Pizzi, non hai capito, devi pubblicarlo così com'era, è vero, io non capisco il genere, bla bla bla è sardo e Stefano ci dirà che cosa significa adesso, no? È una cosa segreta, bla, bla, bla. Sono solo segreto, lo puoi sapere. Comunque Buligana deve dire la sua. Boh, guarda, che dire, a me sì, quella su Kojima sicuramente tantissimo, peccato non esserci, però ero tipo morto in quel periodo, fisicamente parlando stavo male, quindi quella però è stata secondo me una monografia importante, mi sono mangiato le mani perché la puntata di PSD stasera sarebbe stata proprio perfetta, già vi do un'anticipazione su quello che parleremo dopo e diciamo mi riaggancio pure a quello che dicevamo prima sul doppiaggio del merda, quindi comunque restate sintonizzati perché insomma ne sentirete. Carlo, però tieni presente che ci ritorneremo su Kojima, non ti preoccupare, poi troveranno in qualche scogliere il cadavere di Kojima sotto qualche pilone, potremo tornarci e parlarne. Però allora io ti dico, un paio di puntate mi sono molto piaciute di questa stagione, è quella di Fuori dal tunnel, dove c'era anche Gianluca, c'eravate voi, insomma, c'era Alex, e quella su Passione e Muto. No, lo stava Dio, porca puttana, quella era il bello della storia, carina. Passione e Muto, io penso, sì, che molto carina quella puntata, è stata molto molto, anzi faccio ancora i complimenti a Alex per la stesura, insomma. Questa è la mia commozione. Vabbè, pure c'è Spaghetti brale. Games a sto punto, dai, mettiamocela. Sì, non è stata malaccio, è stata una puntata che ha voluto Luigi Marrone, l'unica, però insomma, sempre tanto che ah no, c'era pure quella sua Existence. Però non era sta stagione, Però adesso no, io non mi ricordo, ma ne parlavate bene o male, perché io l'ho odiato Existence. No, Luigi lo adoro, a me fa schifo, cioè. Ma sì, ovvio che lo adori Marrone, cioè, non mi ricordo così. No, io non ho partecipato appositamente perché era meglio che non partecipavo. Poi non mi fai paura, secondo me sì, è stata una gran bella puntata. Sì, è venuta bene quella lì. Va bene, allora. Poi vabbè, puntate sulle esclusive, sì, vabbè, insomma, abbiamo fatto veramente una marea di roba stanno, terrificante. Va bene, andiamo avanti. A questo punto, detto quello che insomma abbiamo detto, abbiamo anche trattato tantissime, come diceva giustamente Marco, tantissime cose anche per quanto riguarda la parte proprio strettamente scritta, quindi la parte del sito. Ci dico una cosa proprio così, poi andiamo al punto successivo, scusandomi anche perché molta gente ha avuto delle difficoltà col sito, perché il sito è molto lento e soprattutto ogni tanto cambiava il template, cambiava la grafica, cambiavano un po' le questioni, è una perché artistica, non è... no, non in realtà c'è un problema, cambiava pure il server, se ti esatto, c'erano dei problemi tecnici che abbiamo finalmente capito come risolverli, stiamo per risolvere, che erano legati penso ad Aruba, perché insomma evidentemente è che non riusciamo a risolvere in nessuna maniera, però adesso stiamo spostando tutto su nuovi server e quindi insomma forse, quindi scusateci ogni tanto sto... Ricordate che non si può dire Aruba senza Aruba. In che senso? Non lo so. Io sono cliente loro, per dire. Così. Bene. Allora Marco, andiamo avanti? Sì, se no comincio a giocare a Candy Crush. Infatti, sta col cellulare. Gli frega una cifra a Marco. No, penso che me lo devo scaricare perché avevo smesso. Che voi considerate che tu lo inviti alla festa di fine anno a Marco, però lui si mette all'angoletto seduto. E dico, mi si nota di più. Fantastico. Se esatto. Ci sono o se non ci sono. Se non ci sono. Esatto. Comunque io ti avverto che c'è in questo momento sul computer di Pizzi, se non ci sentite più, perché c'è un'installazione di un dispositivo in corso e non sappiamo che cosa sia. Però comunque, quali ragazzi, ascoltate. Quale avreste voluto realizzare di puntate, ma che non avete, che non sono state realizzate o registrate per varie problematiche? Non so, è morto qualcuno di noi, per dire, o è stato rapito da un alieno e quindi ops, è saltata la puntata. Posso iniziare con la mia storica puntata? Sì, io sì, sì. Perché io te stavo aspettando al barco. Vedi che Pizzi non c'è gusto. Non parlo neanche più, guarda, faccio direttamente parlare di Pizzi. No, no, vai, io non ricordo. C'è un episodio che mi sta abbastanza a cuore, insomma, anche perché lo non mi ricordo da quanto tempo. E lo hai dimostrato lì. Soprattutto. No, vabbè, il punto è che lì fermo. Cioè, è stato scritto, cioè è stato preparato in un periodo molto florido per DVL, anche per me ero molto florido in quel periodo, tra l'altro. Qualunque cosa questo voglia dire, ovviamente. Esatto. Sta che un episodio che alla fine non è mai stato realizzato, che non voglio dire, di cui non voglio dire il nome perché magari verrà prima o poi realizzato. Ce lo teniamo caldo, certo. Ce lo teniamo certo. Lì. Magari ce lo rubano. No, non penso che ce lo rubino, però rovinare la sorpresa. Insomma, c'è, quindi non è mai stato realizzato e lì pronto ci sono anche un po' di domande, eccetera, eccetera. Avevo avuto qualche idea, qui lì avevo. Io ho letto la bozza e tra le domande c'era bla bla bla. No, no, in realtà, no, lo sa stesso. No, un po' di roba, lo sappiamo bene, perché in realtà lui, cioè, l'episodio c'è. Sì. Semplicemente che non ha avuto, evidentemente, comunque il tempo di finalizzarlo, esatto. Così come facciamo tra una cosa e l'altra, tra un po' il cambio di come dire di format, perché io l'ho scritto pre ultima edizione, quindi come dire c'era ancora il vecchio format standard, definiamolo sì, così sì, è vero e quello diciamo che era concepito per per una tavola rotonda su quel mastodonte, esatto, quindi meno su come sviluppato adesso, un po' anche per tutti i vari cazzilli che sono successi in generale, un po' tutti noi e cose varie, quindi tra una cosa e l'altra è finita in mezzo ai 3000 progetti che mischiano me, Pizzi, IPN, DVL, la vita, cazzi e mazzi, esatto. Esatto. E quindi è rimasta lì a fermentare, ecco. E lo tengo ancora lì a fermentare. Ma però c'è, esatto. Però mi dispiace che non sia ancora stato. Pensa che sul piano, sul piano editoriale doveva avere la numerazione di questo episodio qua, ecco, in teoria. Infatti, però vabbè, ascolta. When it's done, come dicevano per per Duke Nukem Forever, e poi abbiamo visto il risultato, infatti. No, vabbè, allora io dico una cosa, poi passo agli altri, e lo dico a favore di Stefano, perché noi stanno abbiamo veramente esagerato, cioè nel senso, quello che è stata sta stagione di DVL, se ci sarà DVL il prossimo anno, non si ripeterà, questo è sicuro, perché comunque arriva a 18 episodi, e comunque c'è il lavoro di mezzo, e comunque c'è la famiglia, e comunque ci sono gli impegni, questo lo diciamo ogni tanto, perché giusto lo diciamo, però la gente tende un po' come se noi facessimo podcast nella vita, praticamente. In realtà non è così. Sì. Quindi capisco, insomma, che io stanno dando un'accelerata, ho fatto un po' di pressione un po' su tutti, e mi sono reso conto che probabilmente questa cosa ha creato anche un po' di confusione. Quindi è giusto, insomma. Poi, scusa, la pressione principale. Ti interrompo perché qualcuno qui ha citato altri podcast che registrano con Hangout, però fanno cagare come audio. Sì. Invece Pizzi si fa un culo quadro per far sì che tutto funzioni bene, che l'utente che ascolta sta roba in bicicletta, in macchina, cosa, riesca a sentire le voci di ogni singola persona, che non è come dirlo, continuo a ripetere, per cui non rompete il cazzo. Ecco, vabbè, okay. Allora, Gianluca. Guarda, di puntate che non mi sono piaciute, in realtà mai realizzate. Lasciamo perdere. Mai realizzato. Anche puntate che tu avevi in mente e che non abbiamo realizzato. Allora, senti, io sono arrivato un po' più tardi, diciamo, in DVL, quindi non è che ho avuto modo di entrare nella scaletta per non molto, insomma. Però una cosa che magari mi piacerebbe fare, la faremo la prossima stagione, magari se siete disponibili, una puntata sugli youtuber. Pure io ce l'avevo in canna questa cosa, sì. Ci sto un po' in mezzo, ma proprio perché secondo me è un fenomeno ormai che ha assunto una dimensione tale, un'influenza tale sul mercato, sui ragazzi e tutto quanto il genere, che secondo me richiede un approfondimento, insomma. E poi sono cose di cui la gente sa, perché comunque si è imbattuta nel video di magari un idiota piuttosto che un altro, quindi te l'appoggio, c'è di cui parlare, può essere interessante. Poi è facile essere coinvolti anche per chi capita all'ascolto, potrebbe essere una puntata facile da seguire anche, diciamo. Ok, Alex, invece quale può essere la puntata che tu avresti voluto sentire o magari avresti proposto per DVL? Ti ho mandato la cover, una puntata a cui ho pensato 3 anni fa. Che aspetta, io ancora non la vedo, infatti, la sto dicendo io. Spoiler alert, immagino. Spoiler alert, nel senso, come gestire gli spoiler nei videogiochi, dato che fondamentalmente chi gioca e chi fa le recensioni è obbligato a giocarli in anteprima e finirli. Come è possibile, per chi fa giornalismo videoludico, se così si può chiamare, gestire il fatto di aver fatto qualcosa, di sapere come va a finire e di parlarne in maniera anche tecnica, senza però andare a svelare la Alex, che succede. Alex, ti faccio un piccolo spoiler io, esatto. non sempre chi scrive in realtà l'ha finito il gioco. Sì, infatti. Attenzione a quello come sottoargomento. Non possiamo più fare la puntata a questo punto. Però lo spoiler è un problema per tutti i campi. Nel senso, io adesso vi dico una cosa e poi spero che non vi tratterete male. Non ho ancora visto le ultime due puntate dell'ultima serie di Game of Thrones. Vabbè, dai. Cazzo, non ditemelo, non ditemi niente. Cioè, però ripeto, è un casino, perché per 3 giorni uno deve chiudere Facebook, sì, vero, Twitter, internet. Allora, innanzitutto la bambina muore. Deve mandare a fanculo. La bambina muore sempre. La bambina muore sempre. Quindi stai tranquillo. Quello lo so, che bambini non muoiono sempre. È la stessa cosa, un po' come quando ci stanno le partite, tu magari non puoi vederti l'incontro della partita di calcio, di quello che è il Gran Premio di Formula 1 in diretta, te lo registri, eccetera. Tipo la tua ragazza, esatto. Ti diciamo, lo sai che ha vinto Ferrari? Schumacher, esatto. E tu bestemmi, ovviamente. Beh, Schumacher l'ha preso difficile. Se avesse vincesse oggi la puntata 304 Deep Impact era tua, Stefano? Sì. Sì, ok. Non mi ricordo neanche di che parlava dell'impatto. Scusa, ma parlava dell'impatto che avevamo avuto i videogiochi sul nostro amico. Esatto. Hai ragione. Hai ragione. Era pure, pure questa era una bella. L'abbiamo pure registrata a casa mia. Avrebbe detto, insomma. L'abbiamo pure registrata a casa mia con Stefano, che nel frattempo in hangout, se ti ricordi, si divertiva a cambiare gli effetti del cappello, delle cose sulla sua faccia. Non so se ti ricordi. Era quella di Halloween. Era quella. Sì, no, era quella di Halloween, quella, no, forse che se c'è, vabbè, comunque sì, quella era comunque una serie, comunque la volta molto carina. Sì, assolutamente. Sì. Va bene, Alex, hai concluso? Sì, ok, quindi passiamo a Carlo. Carlo, quali sono le puntate che tu avresti voluto o che proporrai magari nel prossimo futuro? Sì, guarda, io ce n'avevo proprio una in canna tempo fa, però purtroppo sono stato fermato un po' in corsa da una persona con cui avevo preso contatti tramite un mio collega che lo conosceva, insomma. Ah sì, ho capito, hai fatto pure persona... bene. No. Che è quel gioco che solo una testata italiana ha detto nove. Esatto. Quattro lettere. Non è vero, un'altra cosa. Volevo fare una monografia sugli sparatutto e su quello che è, insomma, l'accanimento terapeutico che hanno alcuni praticamente in questo genere, insomma, di questa cadenza annuale, se non di meno, insomma, dei vari Call of Duty, no? Tutte queste cose qua. E avevo preso contatti con una persona che lavorava in realtà presso Sledgehammer, aveva appunto contribuito proprio a uno di Call of Duty, tra l'altro non mi ricordo neanche quale fosse, figurati. Però poi non si è fatto più nulla, perché comunque lui mi diceva, insomma, che non poteva proprio parlare di tutto quello che volesse, anche perché sinceramente avevo in mente una puntata un po' polemica, insomma, dal punto di vista dei toni, quindi probabilmente non, insomma, saremmo arrivati al punto in cui lui non poteva rispondere a determinate domande, per cui abbiamo pensato di lasciar stare. Però insomma, quella si potrebbe ripensare poi in una chiave magari un po' diversa, magari con una persona diversa, attualizzarla un po', quindi sì. E poi c'era sempre questa famosa seconda puntata sul doppiaggio che non lo so, mi sarebbe tanto piaciuto operare, insomma. No, infatti, certo, non la farei comunque nelle corde con cui ho fatto la prima, perché effettivamente mi rendo conto che era un pochettino bandi, troppo pesante, insomma, era un po' troppo tecnica, didattica. No, invece quindi, non è vero, la gente secondo me l'ha apprezzata moltissimo. Beh, guarda, io ti dico, quella presentazione lì, più o meno, vabbè, non proprio tutta, però l'ho fatta al lavoro, e devo dire che dal vivo, in video, diciamo che funziona sicuramente meglio, anche perché comunque ho portato tanti esempi, tra cui anche tanti esempi di videogiochi, era impossibile non farlo. Devo dire che un corso, diciamo, che ho ottenuto, che ha avuto un tantissimo successo, e quel mi ha fatto molto pensare su quanto alcune persone proprio di doppiaggio non ne sappiano nulla, credono che sia quasi un qualcosa di magico, qualcosa di onirico. Ma pensano gli attori americani parlano italiano? Per cui come? Pensano che gli attori americani parlano italiano. Comunque, Carlo, io ti invito però, a portare Pietro Baldi qui in trasmissione. È vero. Sì, c'è questo miracolo. Pietro Baldi e anche Davide Carbolino. Davide Carbolino, esatto. Di cui sono anche amico. Vabbè, sono su Facebook. Io sono fan di un solo doppiatore, che è quello che ha dato la voce a Geralt di Rivia. Nel primo The Witcher. Ah, ecco. Perché che problemi molto hai? È vero, sì, che c'era quella voce, calava, andava sul calante, no? Mi ricordo perché non ho giocato il primo, però mi ricordo cose carine, insomma. No, però ecco, vabbè, insomma, se mai possiamo rintavolare il discorso doppiaggio, magari proprio sulla scia di Passione Sound Design, si potrebbe pensare a qualcosa di carino, insomma, magari. Giuseppe. Qua. Allora, io in realtà ne avrei due addirittura. Che poi si rifanno più o meno anche a degli articoli che avevo scritto pure sul sito Idrologia Videoludica. Una che in realtà era anche doveva in realtà uscire anche mezza come crossover con la defunta archeologia videoludica, no? Dopo la nostra esperienza a Berlino, no? Magari parlare appunto di preservazione digitale dei videogiochi, se ha senso creare più o meno strutture, associazioni tipo i musei, eccetera. Insomma, sarebbe stato carino, e magari dare anche avere dato le nostre esperienze per quello che abbiamo visto in quella fantastica, ripeto, esperienza in cui ci siamo anche visti tutti. Ma sai, il problema dei musei è che alla fine, cioè, a volte rischiano che li sfrattano, cioè così. Ed è un problema tecnico. Speriamo. Ma addirittura c'è chi si fregge di primo museo sfrattato in Italia. Esatto. È tornato polemica sempre. No, vabbè, ma d'altronde questi musei che non. Ma veramente è stato più polemico Gianluca, se per questo io sono stato. Sì, Gianluca non c'è gusto con te. Marco invece? No, io vorrei fare adesso, non so ancora in che termini, però sarebbe bello parlare anche delle chiappe nei videogiochi, delle zizze nei videogiochi, cioè la sessualizzazione dei personaggi. Ma abbiamo parlato? No. Abbiamo fatto la puntata? No. E come no? Come no? No, non c'era proprio sesso in videogiochi. Non ho fatto la puntata. Non te la ricordi? Perché te la ricordi? Devo riscaldare la puntata. Devo riscaldare la puntata. Perché c'è qualche cosa che non abbiamo fatto. Può essere pure, però. Cioè, nel senso, può essere pure che sesso e videogiochi la cerco. Tanto me la ricordo anche io. No, c'era l'articolo anche, mi pare, oltre all'episodio, forse. O mi c'era anche c'era qualcuna. O sto diventando Marco Gualdi. Non me la ricordo. Ma sì, sai. Come che stiamo cercando? Qualcuno ha detto che no, poi c'è più o meno tutte quelle che ancora sono nella nostra scaletta. Sono rimasta poca roba. Però tu ne avevi proposte tante, è vero, hai ragione. Se vuoi te l'apro la scaletta. Ah, apri la scaletta. Aspetta, tanto di qualcosa nel frattempo. Nel frattempo il sesso nei videogiochi è molto abusato. Comunque, mi intrometto a gamba tesa, come dice Beppe. Peggy, sesso e rock and roll 1.05. Quindi, esatto. Sì, è vero. E questa è questa. 6 dicembre 2012. Beh, appunto, è ora di riparlarne, ragazzi. Siamo nel 2015, presto sarà il 2016, quindi bisogna parlarne. E siamo qui dopo tre anni, però potremmo anche smettere adesso, insomma, per cui. Sì. Vabbè, perché scusa, qual è lo scopo allora di sta puntata, di sta rimpatriata? È per dire questo, no? Sì, infatti, cioè, i buoni propositi. Comunque. Allora, spunti stagione 3. Allora. Quello l'abbiamo fatto. I riciclati fatto, l'abbiamo fatta, quindi la cancello in tempo reale. Infatti, è bellissima. Cancella, delete. Dove sta il pulsante per cancellare questo? Ok, ecco. Ho cancellato. Però c'è questo qui che in realtà era saltato, ma potrebbe a novembre tornare, o entro novembre tornare in auge. Anche se va un po' rivista, perché a noi c'era una puntata molto anti-Bethesda, no? A suo tempo, ma perché era una cosa di 3-4 anni fa, ma anche forse 5 volendo, perché c'era un periodo in cui Bethesda praticamente minacciava di fare causa, faceva causa a chiunque. Mi ricorda qualcuno. Esatto. Ma poi dopo c'è lo sfratto. Okay. Che minacciava, utilizzava praticamente. Ricordiamolo per. Dici, Giuseppe? Ricordiamolo per un gioco che adesso hanno annunciato, che siamo felici, diciamo, esatto. Siamo comunque, esatto, che lo sviluppo è terminato. Per esempio, se tu, che ne so, tiravi fuori un racconto fan, capito, così, roba del genere, facevi un disegnetto, originale, ti facevano causa. Quindi non si poteva fare, e quindi c'era questa puntata, insomma, che probabilmente faremo. Un'altra puntata invece importante che ci speriamo, insomma, di fare nella prossima stagione era quella che riguardava, ovviamente, cioè il titolo, diciamo solo il titolo, possiamo dire il titolo, sì, che è bruttissimo perché è provvisorio, si chiama Computer, no, Console World Computer Peace, no, esatto, no. Che è bellissimo. Queste sono le idee di Marco. Vabbè, ma comunque basta, insomma, no? Poi sì, vedi la fine dell'hardcore gamer, anche questo lo cancelliamo, certo, l'abbiamo certo, fatto, stiamo facendo tutto in diretta. Che schifo. Va bene, io invece, ecco, c'ho questa idea dello youtuber, quindi ne parlerò poi con Gianluca. No, ecco, aspetta, ce n'è una, scusa. Uh-huh. Cioè, ricominciamo. Abbiamo già fatto sicuramente, no? Me la sono dimenticato. Ah no, allora sì, la puntata fare. Sui reboot e sui remastered, no, non l'abbiamo mai fatto. Vedi, dovremmo farlo. Ne parleremo, ne potremo parlare. Te ne occuperai tu, va bene? anche perché insomma poi la prossima stagione ognuno deve fare almeno due puntate, se no io le caccio a tutti. Detto, detto questo, no, io ecco, c'era questa cosa del, dello youtuber, però va affrontata bene, magari anche con un ospite sarebbe, sarebbe carino, insomma. Se riusciamo a coinvolgere qualcuno, io qualcuno l'ho già contattato e è stato anche, diciamo, molto positivo e mi ha fatto piacere perché comunque è uno di questi emergenti, insomma, poi fuori onda vi dico chi. Favij non mi permetterei mai. Esatto. No, ma poveretto, cioè nel senso, io gli voglio bene, cioè, nel senso non me la sento di prendermela con lui, cioè non è colpa sua. E poi c'è, cioè, più colpa di Sony che lo manda come inviato a, alle 3, cioè vedi, secondo me no, non dirmi che sì, era inviato ufficiale poi dall'altro, quindi... no no, quello so, dico è lui è contattato, no. E ti ha risposto, pensavo che ti ha... Va bene, okay. Andiamo avanti. Ho tutti i VJ che hanno contattato più o meno le puntate, no? Ma sì, sì, tu l'hai detto, le due puntate. Io ho detto più che altro quello dello YouTube. Ma YouTube l'ha già detto un altro. Sì, io poi il prossimo anno penso che parteciperò molto alla molto poco alla creazione delle puntate, perché vorrei ridedicarmi al documentario che ho accannato a mezza strada, insomma. Chi è che scrive? Io. E anche Stefano. Comunque, no, vabbè, no, andiamo avanti, dai, ragazzi, cose brutte. Non ti distrarre, andiamo avanti. Allora, siamo arrivati alla frutta. Esatto, alla mazza caffè. Esatto. Alla mazza caffè siamo stanchi, siamo tanti secchi. All'estate. Estate, fa caldo, il computer scotta. Tu vai al mare? Caldo. No, manco io ci vado. Vado a casa beach, una spiaggia. Dove vai a mostrare le chiappe chiare? A casa beach. Casa beach, una famosa spiaggia qui vicino. E... la casa puttana, com'è? No, quella è Beach. Beach. La voce è quella. Ma un po' diversa, dai, comunque. In ogni caso, che cosa fa il vero giocatore? Quale è l'utente medio di DVL? Si butta semplicemente coi piedini nell'acqua? No! No, gioca, continua a giocare, come faremo noi, ovviamente. Un pochino, anzi, dai, un pochetto, sì, con tutto il tempo a disposizione. Che fai? Non ti fai una partitella? Quindi che cosa giocheremo? Che cosa faremo quest'estate? Che cosa ci siamo accantonati da una parte, in un angoletto? Oppure buio? Pensiamo di consigliare magari da giocare comunque sotto l'ombrellone, anche per esempio, ma se vi va, se vi va, se volete, so. Dai, iniziamo. Decidilo tu, dai. Da Stefano. Da Stefano. Stefano. Eccomi. E ride. Stefano. Da Stefano e ride. No. Ma io a casa la sapevo. Mi trovo buffo, però... faccio ridere. Mi trovo tanto simpatico. Sembra un pagliaccio, ti faccio ridere. Buffone. Io in serbo un po' di RPG, belli pesanti. Un po' da occhio. No, vorrei tipo? Decidermi a finire un po' di avventure grafiche punta e clicca su PlayStation Vita, in primis. Poi ho pronto, caldo, su Kyoden 2, o sui Koden, come dicono alcune persone che lo pronunziano male. il nome è vero, ricordatevi, è su Kyoden. È su Kyoden. che poi cominci dal 2. No, non è vero. È uscito anche l'1. No, ma infatti, il punto è che l'1 l'ho già finito. Quindi su PlayStation Vita. Okay. Quindi stavo facendo in ordine. Ma chi non c'ha Vita non può giocare a su Kyoden. No, può giocare anche su PlayStation Vita. Ok. Perché è rilasciato su PSN, quindi è quello, tra l'altro, giusto anche senza PS. Due minuti prima che mettessero gli sconti dal Giappone, sì, eccetera, eccetera, pagando furbo, lo fanno, quello. Vabbè, quella è sfiga. Vabbè, comunque è sempre duspicio. No, ma infatti euro, non era una spesa eccessiva. Ho preso l'uno e due bellissimi. Ma il primo, ora è comunque uscito anche il 3 sempre su PSN, giocabile su PS3. Il punto è che è giocabile su Vita. Esatto. No, su Vita, ecco. No. Comunque l'1 l'hai finito con tutte le 108, ti importi anche il salvataggio del 2, no? No, allora ho provato a importare, 2, non l'ho finito con le 108 stelle. Mm-hmm. Stelle. Anche perché tu valle dopo un po'. Sì, no? No, più che altro ho giocato l'1 solo in maniera propedeutica per il 2. No, c'è da dire che l'1 e il 2 avevano la cosa brutta, che praticamente per ottenere davvero tutte le 108 dovevi seguire una guida, perché sì, magari c'erano personaggi che potevi... reclutare cioè che apparivano solo in determinati frangenti del gioco, tipo quando visitavi per la prima volta una determinata città, sì, se poi ci tornavi non lo trovavi. Se ci mettiamo più a parlare di ogni singolo gioco, adesso taglio breve. Vai avanti. Quindi vorrei finire quello, vorrei iniziare, o meglio continuare, Pillars of Eternity, che mi porto a casa. Non ti buttare nel buco. No, ma prima io con gli RPG tutto sono e abbastanza... E poi ho notato una cosa, che se gioco, ad esempio, ho preso anche The Witcher 3 su PlayStation 4, ma non mi ha preso abbastanza, forse proprio perché ne ho iniziato 4 contemporaneamente. Forse anche sì. E io, insomma, già ho molti problemi nell'ultimo periodo con gli RPG. Vabbè, non sei tu. Cominciare a giocare e mandare avanti più di un RPG alla volta è un po' problematico, esatto. Visto sono un po' la tipologia, il fatto che poi cominci a confonderti, non ti ricordi uno dove hai lasciato, cosa dovevi fare. Già oggi ho ripreso a giocare sui Suikoden 2 ed ero fermo in un punto dove c'è un mini puzzle e non mi ricordavo più dove dovevo andare. Lo sapevo benissimo, ma detto ciò, quindi più o meno per la maggior parte RPG, e poi che sono quelli che tendenzialmente gioco di più d'estate, dove magari insomma si va un po' più lenti e così via. E poi vorrei cercare, se possibile, di finire Batman al 100%, l'ultimo Batman, ma vediamo se mi rompo anche te sei un altro maniaco dei super agili. Arkham Bug, esatto. No, ma su PlayStation 4 non diciamo, perché il gioco è perfetto, poi dopo che la versione PC sia una merda è un altro discorso. No, la versione PS4 prima dell'ultima patch aveva i problemi con le leaderboards, le classifiche. Vabbè, ma sinceramente delle sfide, a me delle classifiche, noi del multiplayer anche un po' le era per dire i bug, però che comunque stavano accettabile come cosa, tutto sommato mi permetteva comunque di giocare, che era la cosa che mi interessava di più. Funziona e quindi per me l'importante è quello, mettiamola così. E quindi niente, penso che giochicchierò un po' a quello, poi vedo un pochettino, ma penso che la maggior parte delle cose le farò un po' giù a Cagliari, dovrei scendere appunto la settimana prossima e lì sicuramente ho meno pensieri per la testa, cose da fare eccetera eccetera, tra virgolette, quindi magari riesco un po', ma penso che sarà per la maggior parte su portatile o su PlayStation Vita, mobile, cose così, e ho sempre Police Nauts nel cellulare da completare. No, vabbè, a me piace comunque come ambientazione, però insomma mi rendo conto che non è che sia Blade Runner, no, non Blade Runner, Police Nauts, no, è Blade Runner, Police Runner, vabbè, sì, vabbè. E Gianluca invece non ha ferie quest'anno. Più o meno può darsi, no, vabbè, dovrei averle. E no, è praticamente scenderò dai miei genitori sicuramente, quindi lì il computer che c'è è un residuato bellico e ne approfitto per fare un po' di retro gaming, insomma, su Steam. Cerco di prendere i videogiochi che mi mancano e che qui magari non giocherei, allora mi finisco di solito qualche avventura grafica vecchia. L'anno scorso ho giocato tipo a Sherlock Holmes del 94-95, no, che è stato bellissimo. Proprio della serie irriducibile. Gioco! No, è bello poi. Poi è stato simpatico perché l'abbiamo giocato praticamente contemporaneamente io e Cristiano Caliendo, senza saperlo. E quindi poi ne abbiamo discusso. Cristiano, come stai? Sì, allora sei arrivato, devi fatto quella schermata lì. Ma quel pezzo lì, oggetto, quando sei via? Sei via di là? Con l'accento romano, tra l'altro, tutti e due. Sì, soprattutto tutti e due, voi, tutti e due. Gianluca, oh, da sei via. No, Caliendo non capisce, se non gli fai l'accento romano non capisce. No, se parli italiano non recepisce. E quindi niente, faccio una roba del genere. Poi c'ho da finire Kingdom Rush su cellulare, ma quello lo faccio in determinati momenti di intimità, spero di avere anche quest'estate. Infatti inaugurerei questa nuova rubrica. Quando fai la cacca? La prossima stagione, che è giochi di merda, dove non sono giochi da merda. Infatti siamo ancora in decisione di o da, esatto. In cui si raccontano i giochi che si possono fare da seduta. Ecco. Quindi preavvisiamo Carlo che devi preparare l'assets, chiaramente. Allora, giochi del trono, Alex, quindi. Non lo so, che lui, tu ce l'hai quel giochino di merda. Allora, io credo che voler rifinire. Aspetta, Monkey Island 1 e 2 su iPad. Va bene. Questo, quest'estate. Ammazza. Beh, no, vabbè, la Special Edition avrei preso. Quello su iPad, cioè nel senso è l'ultima edizione. Quello su iPad è la Special Edition, però comunque volendo puoi pure su puoi iPad splittarlo pure la versione. Sì, ma la grafica, ma sì. È troppo old. Lo so che non è molto retro game, ma è troppo old per giocare nella versione vecchia. Okay. Il gioco la Special Edition. Ma poi edition, la tentazione dei Telltale non te la sei fatta passare. Sì, perché sono talmente indietro con tante di quelle cose nella mia vita che preferisco voglio finire alcune cose. E poi in realtà ho una brutta malattia per cui di solito dice voglio prima finire una cosa prima di iniziare una nuova e sono indietro perché sono 9 mesi che sto cercando di leggere un libro e non riesco a finirlo ed è terrificante questa cosa qua, per cui ho un sacco di cose arretrate che si stanno accumulando. Ma è che dovresti, allora scusa, allora, come la mia lista Steam, devi iniziare alle elementari, dovresti iscriverti e lì ti insegnano, non c'è problema. Ci metti meno tempo quando impari a leggere, ci metti meno tempo, te lo assicuro. Hai assolutamente ragione, no, è uno l'ho di quei allora, è un libro altro. Che è un libro che ha scritto una persona che conosco e che glielo devo. E vabbè, cioè, è solo che sto facendo grande fatica. Il retro della copertina. E tu mi direi in digitale non c'è il retro. Ma poi c'è il Bignami sicuramente da qualche parte. Ma un cinese per leggertelo. È che mi fa le domande. E appunto, poi il cinese ti fa fare il riassuntone, tanto lui ti farà delle domande sulle cose principali e tu ti fai fare le domande. E il cinese lo sa, te lo riassumo. Paga a me, te lo leggo. Non ricordo, non so. Vabbè, dai, okay, va a bene. Pagamento lo legge lui. Vabbè, quindi due Monkey Island, che mi pare sono comunque sempre una scelta sempre decorosa. Carlo? Beh, io non so, pensavo a un periodo di disintossicazione da The Witcher, perché essendo passato, capito, da un giocone di ruolo come appunto Dragon Age a The Witcher, praticamente non lo so, sono bloccato in questo periodo medievale molto. Beh, sì, sì, ma sai che se smetti The Witcher, cioè senza finirlo, poi lo devi ricominciare proprio da capo, non ti conviene. Almeno portala a termine anche senza parte di tutte le quest. Tanto lui muore. Penso che quando lo finirò, sarà veramente una grande mancanza, perché è un gioco che mi ha praticamente totalizzato la vita. Sì, è proprio sto vivendo proprio in funzione di quello, cioè proprio vengo a casa, ok, guarda, che quest devo fare, ok, faccio questo, fino a quando non comincerai a bere pozioni strane proprio... va tutto bene, insomma. Esatto. E poi mi incuriosiva, però vabbè, insomma, qui si parla di fine agosto, vabbè, ovviamente che ve lo dica a fa Metal Gear, ma che ve lo dica a fa, insomma, però Until Dawn mi incuriosisce. Until Dawn, esatto. Devo dire ma che quando che... Until Dawn 26 agosto. Sì, quello mi incuriosisce Metal molto. Metal Gear invece il primo settembre. Quello è l'accavallamento che mi rompe. Perché poi a seguito pure Mad Max. Ma insomma, ne escono un bel po'. Mad Max lascialo stare. Che sempre giocati Metal Gear. Sempre Mad Max. Non li ho mai capiti, ma li ho sempre giocati. No, ma guarda che l'ultima revisione che hanno fatto, l'ultima prova che hanno fatto quelli dei multiplayer, hanno detto che il gioco tutto sommato è migliorato tantissimo. Tutto sommato. Comunque Mad Max. Mm-hmm. Gianluca l'ha detto, sì, Gianluca l'ha detto, quindi manca Giuseppe. Sì, sì. Allora io dunque io sono un po' strano, perché almeno fino a quasi tutto il mese di luglio che starò ancora qua, ne approfitto ovviamente per sperare di riuscire a terminare The Witcher. E nel frattempo mi sfondo quando ho poco tempo con Splatoon. Forse perché l'avevo solo cominciato per provarlo quello Yoshi Woolly World. Poi quando finalmente ad agosto starò tutto il mese giù in Sicilia, invece mi porterò ovviamente sia PlayStation Vita che il 3DS. Rispettivamente su PlayStation Vita vorrei, ma so che non ce la farò, terminarmi Steins Gate, che è una visual novel, quindi non ci vuole volendo tanto, cominciare ben 3 RPG su PlayStation Vita, che sono Orishika Tainted Bloodline, Tale of Hearts R e anche Neptunia Rebirth. Riprendere, che vi ricordate finalmente la patch, esatto, sì, Citizen of Earth, che finalmente è uscita, ti ricordi la patch che mi bloccava quella quest? Ah sì, c'è, quindi detto, l'avevo smesso. Poi mi ero pure comprato, così per dargli soldi, sempre su PlayStation Vita, Hotline Miami 2, però mai iniziato. E poi ovviamente, siccome è bello comunque Vita per avere due giochi, diciamo mordi e fuggi, che sono Rogue Legacy e Binding of Isaac, che continuo tutto a giocare. Spettacolare Rogue Legacy, mi piace, esatto, tanto. Mentre, bellissimo mentre su 3DS praticamente mi sto portando quasi l'intera libreria, perché basta avere due custodie, diciamo, di quelle del club Nintendo multi cartucce per portarsi tutte le cartucce, e quindi praticamente mi porterei praticamente quasi tutti gli RPG, ma so che di quelli sarebbe bello se potessi non succederà assolutamente iniziare e finire Xenoblade Chronicles, quello per il remake per 3DS. Sì, lo so, invidio tanto, e soprattutto, perché io non ho 3DS e quello lo vorrei davvero. E soprattutto c'ho ancora da recuperare, ma mai cominciato, perché praticamente mi sono dimenticato cosa è successo nei capitoli precedenti, quindi mi dovrei rigiocare tutti quelli. L'ultimo, se vi ricordate, che è uscito mi pare 2 anni fa, capitolo della saga di Ace Attorney, Dual Destinies, però mi vorrei rigiocare prima tutti i precedenti, che non sono proprio giochi corti, per quanto siano delle mezze visual novel, no? C'erano pure su Game Boy Advance, quindi se esatto, vai ancora indietro non finisci più. No, vabbè, c'ho le vecchie cartucce che poi sono i remake, quelli per DS. Vai col walkthrough direttamente, proprio sparato. Sì, sì. No, che poi c'è da dire che io già comunque li avrò iniziati e terminati proprio fino alla fine, qualcosa come ogni capitolo 2-3 volte, ok. E poi avevo cominciato a giocare durante quest'anno. Ma tutta fatto sta roba d'estate riesci a giocare? Lo so, ma me li porto, non si sa mai. Magari succede. No, ma per carità, però te faccio i complimenti. Cioè io. No, ci stavano come ultime due cose. Siccome mi ero cominciato ad appassionare pure con i capitoli di Layton, mi ero già terminato durante l'arco di quest'anno sia il primo, cioè il villaggio dei misteri, mi pare, sia quello col crossover sempre con Phoenix Wright, quindi volevo eventualmente cominciarne tipo il secondo, che era, cos'è, la maschera di Pandora, forse lo skin di Pandora, qualcosa del genere. Boh, se ce la faccio, se sempre per il discorso che comunque puoi abbinare giochi di ruolo a visual novel, perché comunque là segui solo la storia e si prestano anche bene per le cose, insomma, da viaggio, no? Perché comunque anche se sei sotto l'ombrellone devi solo leggere e basta, no? Bene, piuttosto che i giochi di ruolo o altro. Quindi questo, insomma, è tutto quello che so, che di tutto quello che ho detto è già tanto, se 2-3 riuscirò infatti, a finirli. Cioè, perché sennò sarebbe mostruoso. Direi, insomma, ma la tua estate dura 2 anni e mezzo. Non so, dura la tua estate. No, però vabbè, ragionare dura 24 ore, giusto? Cristo, adesso voglio dormire. Avete detto tutti, no? Giusto? Però comunque, tu la vai, Marco, scopro. No, io se continua così probabilmente dovrò finirmi The Witcher ad agosto, perché mo sto giocando tanto. The Witcher lo devi finire, perché poi a settembre dobbiamo tornare tutti a parlare di The Witcher, anche settembre. Simone, che non l'ha ancora comprato, considerate che io sto andando di potrei anche giocarlo quest'estate, devo dire la verità, può essere il mio titolo, devo dire la verità, quindi se continua così lo finirò probabilmente entro la fine, Simone, di Simone, se me lo prometti che hai intenzione di giocarlo quest'estate, te lo regalo io. Lo sto dicendo, ma la promessa qua in diretta. Perché, purtroppo sto periodo so veramente, però ecco, so che mi dedicherò molto tempo quest'estate, non andrò via solo 4 giorni, quindi sicuramente ho il tempo per giocarmelo, almeno giocherò sicuramente. Poi c'è Pillars of Eternity, che purtroppo lo devi finire. Purtroppo sono stato dentro al buco io. No, io sto con la boss fight finale, ma ha preso brutto, cioè non c'è salvataggio. Perché non c'è salvataggio? Perché non lo vuoi finire, sì, in quella fase. Bravo, sì, hai detto bene. No, in realtà io l'ho giocato in una settimana, ho fatto tipo 60 ore di gioco. No, mi ricordo che ti avevo che mi ha preso proprio brutto. Sì. Poi in realtà mi sono rimaste 3-4 quest e sono entrato nella fase dove arrivi, quella irreversibile, quella che devi finire poi il nel gioco. Nel punto di non, esatto, ritorno. E lì mi ha preso, cioè mi ha fatto rosicare. Non riesco a fare sta battaglia. Ho rosicato pure io, cioè non è che non riesco a farla. Ho lasciato il 25% dei quest aperte, un personaggio un po' ciccato. Vabbè, tu sei peggio, ma Don Marco è perché usi solamente due salvataggi. No, io uso 15 di salvataggi, ma li sovrascrivo. Il problema è che salvo molto spesso. Quella è la cosa. Bravo. A me mi fa solo due. Che cazzo fai tutti questi salvataggi? Ma io c'ho un botto, c'ho 15 salvataggi. Allora non rompe il cazzo. Però io li uso tutti a 15, però in continuazione. Vabbè, quindi. E quindi quello, Witcher. Poi c'è Pilots of Eternity, poi c'è Original Sin. Batman non si sa. No, perché Batman per PC questa che esce. Divinity è solo se su PlayStation 4, perché il mio PC proprio non ne ha, cioè è assurdo per quanto sia. Poi c'è Watch Dogs. Io devo ancora finire Watch Dogs, è bellissimo, devo finire. Faccio il primo avvio. Come Stefano che ha fatto. Poi c'è Wasteland 2. Ha fatto il primo avvio di The Mordred sei mesi, no, un anno dopo. Wasteland 2, insomma, tu le così. Mardered, che bella cagata. Sì, esatto. Vabbè, era. Aspetta, perché ho Mardered? Adesso non mi ricordo. L'avevano messo gratis. Perché ce l'ho? Sì, ma tipo l'hai trovato a 10 euro. Mi ha scritto Sony, Stefano. Per favore. Ci conosciamo dalla PlayStation 1. Dai, faccia sto io faccio a questo punto faccio l'appello, se c'è qualche dirigente Sony all'ascolto, i titoli del Plus di questo mese sono sempre un po' per favore, almeno ad agosto metti finalmente sto knack, che io non voglio cacciare manco un centesimo per perché giocare. Vogliamo parlarne male con cognizione di causa questa volta. Esatto, però certo. Gratis. Bene, quindi ok. Tanta roba da giocare, però non esce la cippa di nuovo, giusto? Quelli che no, ma agosto come no? Esce tutto a fine agosto. Down se lo giochiamo sicuro a casa mia, quindi sai quello. Anche perché PC non ce lo esce. No, ma tu lo sai che noi ci divertiamo molto con i giochi alla Cage, insomma. Facciamo giocare Michele. Esatto. E poi vi ricordo che comunque per chi è che adora le cose seriali, ci abbiamo, no? Tale of Borderlands, Game of Thrones, Life is Strange, no, che stanno seguendo tutti i vari episodi. Esatto. Manca. Poi ne parleremo anche di questi. Faremo una cosa sui giochi narrativi. Ok, Marco, andiamo avanti. Potremmo andare avanti oppure potremmo fermarci qui, ma in realtà andiamo avanti e facciamo un po' di proiezioni. Proiettiamoci verso il futuro e domandiamoci: The future! What's the future? Quali sono le prospettive e i progetti futuri? Cioè, cosa vogliamo realizzare noi, dopo le vacanze? Io voglio realizzare un videogioco, già l'ho detto, l'ho annunciato. Come si chiama? Praticamente, non lo posso dire come si chiama. Tipo, mi fregano il dominio. Tales of Merda? No, si chiama Super Pizzi Brothers. No, è un titolo articolato. Ma è quello di cui ci hai fatto vedere quelle bellissime animazioni. Si chiama Super Pizzi. A me non me sta bene. Sono migliorate le animazioni, Gianluca. Ma se non gli strumenti, non puoi. Simone, forse ho capito. No, non è quello. È quel gioco Super che Pizzi Magic Zero. No, è quel gioco che ha come protagonista quel famoso dissidente di Forza Nuova. No? Esatto, quello che mi assomigliava tanto. Sì. Certo, una storia di scambio di persone. C'è la foto pronta, quella quando serve viene fuori. C'è Giuseppe per un mese ci ha fatto i meme con quella cosa. Ma infatti quella è sempre pronta, è sempre attuale. Esatto. Bene, allora torniamo a noi. Dicevamo, fatto questa domanda, progetti futuri. Quali sono i progetti? Da chi vuoi iniziare? Decidi tu, dai, ti do questo. Da Santilio. Santilio. Così. Santilio, grazie, lei non mi stava attento, cominciamo da lei. Va bene. Ma progetti futuri, ma guarda, al massimo facciamo che non faccio niente. Puoi fare il videogioco così? Sarebbe la cosa alternativa. Sì, dai, che dai, facciamo? Poi ti spiego. Mi spieghi? Ci serve un coder, un programmatore. Gianluca, prevedi qualche altro cambio? Qualche altro cambiamento del nome del tuo canale? Nonostante le grandi richieste, no, guarda. No, penso che continuerò a curare il canale, però quest'estate penso anche di no, visto che dai miei sempre il computer non permette di fare video, non permette di fare nulla, quindi credo che darò gli iscritti un po' di pausa, che secondo me li sto anche un po' tartassando di troppa roba, quindi va bene così prima che mi odino. Me ne sto riposo. Ma di chi stai parlando? Caricherò le energie per la prossima stagione. Cioè, chi è che ti odia? Non ho capito. Mi sono perso un pezzo. No, sto un po' esagerando con le nuove rubriche sul canale, un sacco di video un po' a cazzo. Ma perché quindi, a voi YouTuber a un certo punto prende la mania del de protagonismo, sì. Secondo me, cioè proprio... No, ti dico che cosa è successo. Più di una persona mi ha detto: ma perché non fai cose un po' più cazzone, un po' così per aumentare gli iscritti? E quindi ci ho provato. Non sono sicuro che sia una buona idea. A te però serve la voce spalla. Serve. Vuoi sapere chi è? Mi serve la voce spalla. Vuoi sapere chi è? Sì, so chi io. È? Te servo io. Dimmi, per fare voce una spalla. Una persona a caso. Scelta tra il mucchio. Anzi, facciamo, anzi proviamo, in alternativa proviamo. Io e Biggio. Ecco. Perfetto. Facciamo il diviene, folklore, no, no, il folklore. No, tu sei sempre il master di tutto quanto. Santino. Poi ogni tanto ti rivolgi a noi e noi diciamo una cazzata. Sì. Così, giusto per questo che vogliamo screditarci. Okay, se chiamarmi a casa. Tipo le. Infatti. La salmon, sì. Faccio una salmon. Esatto, ogni tanto adesso è poco pizzi. Fa il culo a tutti quanti. Esatto. Adesso è poco pizzi. Dove sono le pecore? Ci è rimasto vabbè, male. Sì, incredibile e simpatico. Vabbè. La provocazione non è il mio forte. Non raccoglie, no. Ragazzo, non raccoglie. No, vabbè, quindi era questo, insomma, mettere un po' d'ordine sì, nel tuo canale che c'ha troppa per l'estate. Roba. Mm-hmm. Sì, sì, sì. A Stefano? Cosa? Bah, io fumerò del crack, perderò i denti. Questo è più o meno il mio tuo obiettivo. Il mio obiettivo. Ma poi se perdi i denti con i podcast come fai? E fare il podcast così, sì, sì. Ah, quindi sei pronto per il geronto? Sì, esatto. Però sono geronto qui. È difficile. No, non riesumare i cadaveri, Marco. Dai. È morto solo da alcuni mesi. Ma da alcuni mesi. Un numero compreso tra 0 e 10 di mesi. Quindi, peccato, tra 0 e 12. Ma neanche mi pare. Neanche mi pare fai più trasmissioni Twitch, se non sbaglio. Però adesso che ha trovato la c'ha da fa, Stefano. Ha trovato veramente la formula giusta del suo podcast, cioè esce no, silenzio. Una volta e poi basta. Io No, pensa che era uscita la puntata del Retrocast, ero felice, l'ho scaricato, ho mandato in play ho dovuto spegnere subito. E vabbè, ma perché sei tu che c'hai problemi, siete dei puzzoni. Io c'ho i problemi. Sì, no, devo dire che però quella dopo con quell'altro ospite era fantastica. Ma la so persa, era quella con era Esatto. Quella dove parlavate anche della storia ancestrale. Sì, tanto vi dico, ho conosciuto Marpo. Sono stato a cena da Marpo. Vero, ebbene sì, ecco. Marpo esiste. Io ho scommesso 10 franchi, che era un. Solamente una persona gagliarda. Lui e la moglie sono veramente forti. Tra l'altro, la moglie è videogiocatrice peggio di lui. Sì, ma mi ricordo perché c'era tipo lui che mi parlava e sentivo dietro: ah, ma com'è che faccio? Mi sono bloccata qui. Lì che mi toccava contro lo schermo. Grande, ma. E quindi niente, Marco esiste, state attenti perché. Attenti, perché ora che esiste potrebbe venire a casa vostra a mangiare. Esatto. Va bene, quindi quando ci sono il crack e i denti, vabbè. Crack e perdere tutti i denti in seguito, forse quello è la metà. E per DVL vuoi dare una mano il prossimo anno? Ci sarai, sì. Insomma. Sì, mi auguro, ragazzi. Se ci sarà DVL. Esatto, che riusciamo a. Essere tutti un po' più presenti in generale. Esatto. Cioè, nel senso, questo vorrebbe dire che la situazione di tutti è più sia serena, migliore, ecco, certo. Perché purtroppo le cose vanno di pari passo, volenti o nolenti, e dato che è una cosa che insomma viene fatta per piacere di farla, insomma, se si riesce a farla è piacevole. No, è vero. Poi voi lo sapete, so insomma, che aggiungerà questo. Quindi ve l'ho detto recentemente, io ho anche rischiato di non esserci più. In un altro, allora io faccio sempre questo ragionamento: in un altro universo, secondo la teoria dei multiversi, tu pizzi, mi dispiace, ma non ce l'hai fatta. In questo universo, cioè, noi abbiamo imbroccato, diciamo, la linea temporale dove tu. Cioè dove, esatto. Io stiamo parlando. Dove io sono sopravvissuto. Esatto. In un'altra linea temporale adesso stiamo facendo il requiem, eccetera. Esatto. Però quanto era bravo Vizio. Ricordiamo la puntata di Girotto Gamer. La pasta e fagioli. Esatto. No, quella sulla vita delle lumache, no? Quindi va no, bene, adesso allora, sì, spero appunto che ci siamo sempre tutti, che ci sia più gente, che ci sia più tutto e dei videogiochi belli in modo assurdo. Sentiamo Alex che era partito bene, mo poi si è abbioccato durante il percorso, insomma. Ma no, ma lascia voi che siete giocatori. Ma tu hai detto una strozzata uguale, così. Dina sarciccia, ah, butta okay, la sarciccia là. Sì, esatto. Ok, però va bene. Io penso che sei scollegato, che ne so, io non so. No, no, no, sono scollegato nella vita, però ci sono. Allora, cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe vedere, allora, devo dire a vari livelli, mi piacerebbe che il podcast, ma tutti i podcast si evolvessero verso qualcosa di più engaging per il pubblico, nel senso fare podcast, e lo sa benissimo Carlo Burigana che anche lui è ormai è su una zattera verso l'orizzonte. Fare podcast è un casino, sta perché sta sul gommone, sì, esatto, nella direzione opposta. È un casino perché tu fai delle cose, hai praticamente zero feedback, oltre ad avere zero soldi, vabbè, quello è il meno. Infatti, chi fa gli youtuber hanno capito tutto della vita, cioè hanno un canale su cui se fanno tanto casino iniziano a guadagnarci abbastanza per portare a cena fuori, che ne so, la fidanzata o il fidanzato o il cane. Fare podcast è un casino. A me piacerebbe riuscire a trovare una sorta di quadratura del cerchio che funzionasse un po' per tutti, non soltanto per Dietrologia Videoludica, che consentisse di avere maggiore interazione con il pubblico. Non so se può essere un'app o qualcosa di del genere, però mi piacerebbe davvero far sì di avere un mezzo che consenta a chi fa podcast di avere una sorta di feedback, perché chi fa podcast nemmeno sa quanta gente si scarica il suo podcast, perché con tutti i bot che ci sono non sa quanta gente se lo ascolta, quanti arrivano i primi 10 minuti, quanti arrivano a 20, quanti arrivano a 30. Se tu sei youtuber tutte queste cose le vedi, c'è la percentuale di gente che si arriva oltre la metà del video, per dire. Il podcast no, il podcast è veramente, certo, una terra di nessuno, completamente abbandonata, no, a meno che non c'hai dei servizi specifici, posso... però perché c'ho i servizi tipo Libsyn o tipo Spreaker o roba del genere, che se tu paghi ti danno anche servizi più avanzati, insomma. Sì, ma soltanto sul web. Io penso che il podcast è una di quelle cose che uno ascolta veramente quando sta facendo altro, quando ha le mani impegnate, del motivo per cui non può fare like, non può dare feedback. Se io sto correndo in bicicletta, sto andando in automobile, le mani ce le ho sul manubrio, sul volante, sul cazzo, le mani sul cazzo. Io l'ho ascoltato il podcast solo in quei momenti, fuori mi sembra strano. Spero che non siano i nostri, perché veramente sta cosa tutti fa un po' strano. Ascolta tutto, ascolta, le 50 sfumature come credi che vengano fuori. Insomma, Alex, ma ti posso fare una domanda tecnica? Vai. Quanto sei alto? Ti volevo chiedere, praticamente 1,78. No. Praticamente sarebbe bello, se fosse possibile farlo, un sistema per come dire, riunire tutti i commenti che si sparpagliano su una determinata cosa, no? Per dire, si fa un quando facciamo le puntate di VL, Archeologia Videoludica, qualsiasi podcast, noi mettiamo l'indicazione nella copertina della pagina del podcast, e una persona magari commenta lì, poi un altro va a commentare nel gruppo X, poi nell'altro podcast, per dire, tu dici una specie di torta di Tumblr, cioè, però per i commenti. Cioè, nel senso che un aggregatore per, esatto, i commenti. C'è un aggregatore, esatto, che magari nel quale si mette un riferimento a quel file preciso al quale si fa riferimento, che si inserisce come link, e tu hai una pagina dove controllare tutto, perché da lì secondo me si ha un feedback reale, perché io, per dire, tante volte ho spammato la roba di Carlo, però magari Carlo può darsi pure che forse l'ha fatto anche qualcun altro, Carlo non ha notato quel commento, che magari gli vale come feedback, anche come motivazione, come tutto, e magari si perde nel web come tantissime altre opinioni. No, è vero, c'ha ragione, perché per esempio io tante volte ho condiviso tante volte i video di Gianluca, poi vedo che Gianluca non faceva lo stesso e poi ho smesso di farlo, per esempio. Hai fatto bene. No, vabbè, scherzo, chiaramente, però sapete, che, no, sapete qual è il problema? Cosa. Secondo me il problema di fondo è che il podcast da sempre è uno strumento ibrido, da prima era legato in maniera indissolubile ai blog, oggi per esempio potrebbe già non essere più così, quindi già potessi eliminare un, però ecco, il podcast dov'è? È sul tuo blog, ma è su iTunes, ma è anche sulle applicazioni Podcatcher, ma è anche su TuneIn, ma è anche su Facebook. Ma cioè, capito? Il problema è proprio che manca un posto univoco dove quello strumento è ascoltabile. Con Spreaker, per esempio, che è uno strumento che stiamo studiando, anche se esiste da anni, poi c'è un aneddoto su Spreaker. In realtà questo è fattibile, perché Spreaker viene concepita come podcast e web radio in concezione social, cioè nel senso è una social radio fondamentalmente, mette in contatto gli ascoltatori con il produttore, e questa è una cosa interessante, la mette anche in contatto e in correlazione la radio fra loro, o le radio, i podcaster, quello che è, insomma questo è forse lo strumento che potrebbe dare una mano a questa cosa. Però come io e Alex sappiamo bene, oramai è un'esperienza insomma quinquennale su questo tipo di discorso qua, il problema è che il podcast è uno strumento e tu devi scaricare, inserire all'interno di un dispositivo e portartelo o in bicicletta o in macchina, roba del genere. Allora sono già troppi passaggi che la gente già si è sminchiato, ok? Cioè in realtà la cosa veramente che potrebbe essere un successo è rendere immediato il modo di usufruire di questi strumenti, perché se io devo sta a pensare a che l'utente lo deve scaricare o se deve abbonare su iTunes o roba del genere, già sai che la metà della gente non lo fa. YouTube ha vinto per questo. YouTube, tu metti lì Cocciante, Cocciante e ti escono clicchi e ti ascolti Cocciante. Proprio Cocciante, cioè, c'è solo Cocciante. Ma qual è il problema di Cocciante? Che aveva lì? Neanche è un nano maledetto. Margherita. Dai. Non lo so. Fa davvero troppo cagare. Non lo so. No, Cocciante è un genio, dai. Chi lo concederà? I capelli a trovare sul lavoro. Perché tu fai così? Comunque vabbè, niente, basta parlare di Cocciante. Infatti che devo dire, la stanza a cantare le canzoni di Cocciante. Quindi no, allora, Alex, ho capito la issue, comunque è difficile. La issue. È una parola giapponese, Io non ho idea di come si possa fare, perché non so quante di queste app sono aperte e quante non lo sono. Cioè, per raccogliere tutti i commenti. Tipo l'Ave Maia, l'Ave Maia. Tutti non è una cosa che farei io, cioè, però è interessante come cosa. Riso solo Stefano, in giro. Io, ma sulle api non sono molto, più sulle vespe, devo dire. Esatto. No. Scusate. Vabbè. Il caldo. Vabbè, comunque, Alex, sintetizza, siamo un po' persi. E ho finito. Hai finito? No, non ce ne frega. Quindi, allora, se volete un programma sintesi che perfetto. Vi faccio queste cose, contattate Alex Racuglia, che le vuole fare, che non vede l'ora. Infatti. Happy Cleaner. Esatto. Posso... Alex, ma continuerai anche a stampare quel fumetto là? Allora, io ho quasi finito di fare il motion comic che sarà esclusivo per il libro, per il secondo libro, sì. No, cosa? Tu quante risorse? Avremmo voluto fare un videogioco insieme, Gianluca. Sì, Gianluca, Alex. C'è ragione. Però, guarda, sto facendo fatica a finire questo. Io sono da solo, che immagino come sia lavorare in due. Per cui, dai, Alex, adesso, adesso farai il nostro comic. Uno pensa e l'altro fa. Della scimmia. Adesso, quest'estate, finirò la scimmia e farei il motion comic. No, però, una volta dobbiamo fare una discussione sui Geronto Gamers. Perché, secondo me, i Geronto Gamers di 5 minuti, anzi neanche di 3 minuti, erano un successo per YouTube. Quello era proprio. Però bisognava pensare. Secondo me su YouTube sarebbero spaccato. Puntate di 3 minuti. Sai che inizio a pensare che siamo troppo vecchi per YouTube. Questo tutti sicuramente. Noi. Ma non è che dobbiamo essere noi presenti. Cioè. Vabbè, poi ne parliamo. Sono i giovani. Ma guarda che l'età media dello YouTuber si alza. Che ha detto Gianluca? L'età media dello YouTuber è in aumento, quindi c'è sempre più spazio per quel magari un tipo di comicità o un tipo di iniziativa che può piacere a noi. Ma io guarda, oggi ho visto su YouTube troppo. Ho visto uno in mutande viola che sta lì e leggeva le notizie in romanaccio strillando: si capisco la cazzo, questi sono tutti, c'è il culo da tutti. 10.000 visualizzazioni era sicuramente, perché Marco, oramai è quello il successo su YouTube. Io e Marco se mettiamo in mutande viola e cominciamo a strillare il romanaccio e vedi che anche mi piace per culo 10.000 visualizzazioni. Posso dire che mi sono portato avanti col lavoro e ho già dei boxer viola. Bravo, ma quelli ce l'ho pure io. Poi devi cominciare a strillare Romanaccio. Questo mi sta bene, devo stare qua, devo stare attento che circola tutti. Ma che cazzo di lingua è? No, non lo so io. Ma che accento è? Questo è un po' il sardo sì, no, ma veramente mi sembrava ligure quasi, cioè una cosa impressionante. Vabbè, dai, comunque no, andiamo ligure. Belino, adesso devo fare delle cose che non va mica bene. È più una roba così. Ma questo ti è venuto meglio. Non ero preparato su quello romano. Adesso mi hai colto in Alberto, certo. Castagna. Ti dovevi un attimo. Va bene, quindi Carlo, le tue prospettive del lavoro, mantenere il lavoro, che ne so, se, esatto. Quindi insomma sto passione sound design è morto e vivo. Passione sound design, diciamo, è che è un coma vigile, insomma, è ancora attaccato alla spina, c'è un polso molto debole, insomma, però magari chissà, un giorno ritornerà a vivere. Io sinceramente non so, io adesso dovrò prendere un po' una decisione con, dovremo anche insomma insieme, tutti quanti, insomma, io poi faremo, immagino, comunque qualche riunione, come dire, di staff, insomma, la prima di ricominciare sicuramente poi. Esatto. E decideremo un po', insomma, da farsi su che dire, che fare, che cambiare di questa cosa. Però al di là di questo c'avevo una mezza idea che insomma per ora è veramente solo un pensiero, però, come dire, un neurone che si è collegato con un altro neurone che verrebbe quasi da buttarmi in un progetto video, non io personalmente perché insomma sarebbe terribile, però non so, complici insomma le ultime skill che ho acquisito lavorativamente parlando sul montaggio e sulla grafica un pochettino, magari buttarmi in una cosa di quel genere, vediamo, non so ancora nulla, per cui non sono ancora in grado di pianificare concretamente cose. Mamma. Questo è. Vabbè, se ti serve la mano, tu lo sai che. Sì. Stai tranquillo, infatti. Tu chiedi sempre. Fai una bella petizione che ho visto che ci sono un sacco di persone che ti vogliono in vita. Infatti, fra un po' arriviamo alla posta. Allora, c'è rimasto Giuseppe. Beh, l'occhio io del biondo, ovviamente... prima di tutto. No, anche, però insomma, veramente volevo esordire dicendo, a prescindere dal fatto che questa sia o meno l'ultima puntata dei podcast di DVL o dei podcast videoluci di DPN o quello che sarà, comunque il mio impegno continuerà e non potrà sempre che crescere, ma mai diminuire, verso tutte le prolifiche opere di Simone. Poi c'è sempre appunto il discorso che sì, l'occhio continuerà fin tanto che non mi rompo io, e soprattutto non mancherà il supporto di Simone, perché altrimenti mi vedo perso. E poi c'avevo la mezza idea, quando sarà, di riesumare o il mio canale o di vedere insomma come possiamo pensarcela sempre nell'ottica dei progetti di Simone. Bene, no, per i video. Ma poi per quanto riguarda l'occhio, state tranquilli perché il supporto non mancherà. Certo, poi se manco io è un altro discorso, ma un universo parallelo. Sta già perdendo i denti da un mese. Simone, se hai subito problemi, messaggiami quello che è WhatsApp, che io ti mando subito una Phoenix Down. Ah, bravo. Ti faccio resuscitare. Il problema gliela devi manda a Marco la Phoenix Down, perché se io da solo, se sono morto, non mi posso tirare la. Esatto, però non fa pregato, non fa passare troppo morire, tempo, no, la coda di benedire, esatto. Lo so. Vanno a farsi benedire un po' di roba. Anche tu c'hai qualcosa ancora in sospeso, il tuo canale YouTube fantastico. Ma infatti io ti ho passato anche, vabbè, niente, questa è un'altra questione. Ah, vabbè, dai, poi ne parliamo. Sapete che non me ne sono accorto. Come non te ne sei accorto? Va bene. Forse era un periodo un po' così per tutti e due. Sì, no, tu lo sai. Posta? Tu lo sai che... Sì. Allora, ma no, prima? No, prima ovviamente dato che abbiamo parlato già l'altra volta che comunque c'è questa questione di passione sound design, ci abbiamo scherzato e continuiamo a scherzarci perché noi ci piace pigliarci per il culo. Godetevela fino a esatto. Adesso c'è l'ultima puntata. Puntata intesa come per ora realizzata. Poi io ho detto giustamente Carlo, chi vivrà vedrà, perché insomma non ci poniamo limiti, comunque l'esigenza di Carlo è quella di allentare un po', perché comunque sono questioni anche dal punto di vista personale magari e professionale che comunque giustamente devono avere sempre la precedenza e anche il tempo che uno deve dedicare alle cose insomma deve essere comunque ponderato. Come ho detto, questo è stato un anno eccezionale e come tutti gli anni eccezionali probabilmente non si ripeteranno, insomma per la loro eccezionalità si ripeteranno in maniera meno eccezionale, che va bene uguale. Quindi ci ascoltiamo l'ultima passione sound design e lascio a Carlo l'opportunità di lanciarlo, così ci dice anche qual è il tema. Boom. Allora, questa è la ottava puntata, io mi dispiaccio, volevo arrivare a 12, volevo chiudere l'anno così, però vabbè, niente, non c'è stata occasione, però insomma sono stati 8 mesi, no, alla fine, insomma, calcolando più o meno in soldoni la puntata al mese, ci si può stare. Non male, sì, dai, alla fine ci sta. Poi sono sempre riuscito, insomma, a rimanere nei 10 minuti più o meno, ecco, questa forse fa eccezione perché se non erro dura 12 minuti, è una puntata. No, allora che... no, non la possiamo. No, secondo me, poi mi direte anche voi, insomma, da amici da casa, io una che delle puntate che reputa forse più carine, insomma, è una di quelle che proprio sono venute da sé, come si dice. Quindi godetevi questa ottava e ultima per ora, insomma, puntata di Passione Sound Design sul nostro amico Hideo Kojima e sul suo Metal Gear Solid. No, really. Amici di dietrologia videoludica e attenti scrutatori del sync di labiale, bentornati a questo nuovo appuntamento con Passione Sound Design. Chi vi parla è sempre il vostro sound designer Carlo Burigana e, lo ammetto, il viaggio in cui vi condurrò in questa puntata è un po' complesso da spiegare in poche parole. Partiremo verso un mondo videoludico fantapolitico in bilico tra genio e follia, concepito dalla mente di un game designer che ha rivoluzionato il genere stealth e, per certi versi, il modo stesso di concepire i videogiochi. Seguitemi quindi in un'analisi del comparto sonoro di Metal Gear Solid. La serie Metal Gear Solid fa la sua comparsa nel 1998 su console PlayStation, ad opera di Konami, software house giapponese con sede a Tokyo. La trama del gioco è stata scritta dal game designer Hideo Kojima, divenuto poi vicepresidente della stessa Konami. Metal Gear Solid è il seguito diretto di altri 3 capitoli della serie Metal Gear, 4 se consideriamo anche uno spin-off non ufficiale, usciti tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 per piattaforma MSX2 e successivamente convertiti per NES. La serie Metal Gear ci racconta di Solid Snake, combattente della Foxhound, un gruppo militare specializzato in missioni di infiltrazione, fondata da Big Boss, soldato leggendario al soldo del governo degli Stati Uniti, divenuto poi disertore e leader di una piccola nazione indipendente, dove assolda un corposo esercito di mercenari provenienti da tutte le parti del mondo. Nel lontano 1987, la prima missione di Solid Snake, nato da un esperimento di clonazione dello stesso Big Boss denominato Les Enfants Terribles, comprendeva l'infiltrarsi e sgominare il piano di suo padre, costruire il Metal Gear, una potente arma mobile capace di lanciare attacchi nucleari verso qualsiasi obiettivo sul pianeta. La serie Metal Gear esplode sulla ormai collaudata console PlayStation, introducendo la dicitura Solid sul titolo, che non si riferisce al nome del suo protagonista Solid Snake, bensì all'utilizzo di una grafica poligonale a 3 dimensioni che ha rivoluzionato completamente lo stile dei precedenti capitoli, con grafica bidimensionale. It looks like they were cut by some type of blade. La missione di Snake in Metal Gear Solid viene nuovamente assegnata dal colonnello Roy Campbell, vecchia conoscenza del protagonista che lo ha guidato anche nell'impresa del precedente capitolo. Snake, listen up. Stavolta a creare disordini c'è Liquid Snake, fratello gemello di Solid Snake, anch'egli nato dai geni di Big Boss. Liquid Snake. Liquid, divenuto capo di una cellula terroristica formata da ex membri Foxhound e fedelissimi di Big Boss, ha preso possesso di un arcipelago in Alaska, dove ha ufficialmente riaperto il progetto Metal Gear, minacciando il mondo di un attacco nucleare su vasta scala. Ha inoltre preso in ostaggio alcuni scienziati e la nipote del colonnello Campbell, Meryl. Le richieste di Liquid sono semplici: riavere le spoglie di Big Boss per avere accesso al suo DNA e curare l'instabilità cellulare che affligge lui, Solid Snake, e gli altri soldati genetici creati dalle cellule di Big Boss. What? What is it? Come on, Snake. Il compito di Snake non sarà affatto facile, visto che dovrà affrontare l'esercito di Liquid e i suoi fedeli generali. Super soldati con caratteristiche e abilità peculiari fuori dal comune, che spesso sfociano persino nel paranormale. Il doppiaggio in lingua originale di Metal Gear Solid setta degli standard importanti nell'industria videoludica. Hideo Kojima, infatti, da grande appassionato di film d'azione americani, ha ideato il gioco con una cura maniacale delle scene d'intermezzo, interpretate dai personaggi come scene di un film, ricercando uno stile audiovisivo dal sapore cinematografico, come 2 anni prima aveva già fatto, seppure in parte, Resident Evil, altra saga videoludica molto cara a Kojima. And Japanese cartoons played some part in that? They did. Per rendere al meglio l'ottimo lavoro attoriale serviva un cast di doppiaggio con i fiocchi e infatti sul protagonista Solid Snake troviamo l'attore doppiatore californiano David Heiter. You're not my commander anymore and I don't have to take orders from you or anyone else. Conosciuto anche come sceneggiatore di film tra cui X-Men e Watchmen. One of the greatest soldiers ever? You don't mean Big Boss. That's right. David Heiter, fin dal primo capitolo di Metal Gear Solid, diventa un vero e proprio attore feticcio per Kojima, interpretando non soltanto Snake in tutti i futuri capitoli e spin-off della saga, ma anche Big Boss nei prequel Snake Eater, Portable Ops e Peace Walker, questi ultimi usciti su PSP, la console portatile di Sony. Major. I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. Purtroppo, per ragioni non molto chiare, la collaborazione tra Kojima e Heiter cessa prima dell'uscita di Ground Zeroes e The Phantom Pain, i primi 2 capitoli della saga destinati alle console PlayStation 4 e Xbox One, in cui Big Boss viene interpretato dal famoso attore Kiefer Sutherland, che ascoltiamo. Kept you waiting, huh? Chico, it's me. Chico, where's Paz? Nel ruolo del colonnello Campbell troviamo l'attore Paul Ading. It's been a long time, Snake. That's no way to greet an old war buddy, Snake. Già sentito in svariate opere videoludiche, tra cui God of War, in cui interpretava Zeus. La sua voce seriosa rende perfettamente il personaggio dell'inossidabile colonnello, anche se l'interpretazione più famosa di Ading in tutta la saga, per molti fan resta quella in Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, in cui verso l'epilogo del gioco possiamo assistere a un vero delirio di Campbell. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw Space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey Rock. I need scissors. 61. Nel ruolo dell'inseparabile comprimario di Snake, Al Emmerich, meglio conosciuto come Otacon, troviamo l'attore Christopher Randolph. Call me Otacon. It stands for Otaku Convention. Proprio come David Heiter, Randolph si troverà ad interpretare non solo Otacon, ma anche suo padre Huey Emmerich, nei prequel della saga di Metal Gear Solid. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. Sul personaggio di Meryl, la nipote di Campbell, troviamo la doppiatrice Debbie Mai West. That's strange. There's no guard. Make sure you're ready, okay? Già ascoltata in svariate altre opere videoludiche e come la Lady Tsunade nella localizzazione inglese dell'anime Naruto. Naruto? Huh? Do you really have time to be dawdling around here? You're right. Sugli antagonisti di Snake troviamo l'attore doppiatore Patrick Zimmerman nel ruolo di Revolver Ocelot. We're going to play a game, Snake. We'll find out what kind of man you really are. The girl's life is mine. E Cam Clark nel ruolo del fratello Liquid Snake. Of course. The president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. Entrambi già ascoltati nel doppiaggio di cartoni animati e videogames. Purtroppo la serie Metal Gear Solid non ha mai ricevuto una localizzazione italiana in quanto a doppiaggio e... scusate un attimo. Pronto? Qui Snake. Riesce a sentirmi, colonnello? Dicevo, la serie Metal Gear Solid non è mai stata doppiata in italiano e... Oh. Qui Snake. Sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Eccellente, Snake. Ricordati, tranne che per il binocolo, sei completamente nudo. Ok, ok, d'accordo. La localizzazione è stata curata da Synthesis International a Milano, ma solo per ciò che concerne la traduzione e l'adattamento dei dialoghi. Per qualche ragione, infatti, la fase di doppiaggio non è stata eseguita in Italia, ma a Londra, presso gli Abbey Road Studios, sotto richiesta espressa di Konami. Per questa ragione, il cast di attori doppiatori proposti da Synthesis è stato modificato da Konami, che ha distribuito i ruoli ad altri doppiatori, alcuni palesemente non professionisti. Snake, ci sono molte interferenze elettriche nella tua zona. Non ci sarebbero problemi se tu trasmettessi a intermittenza come... Il Giappone è stata la prima nazione che è riuscita a realizzare i robot bipedi. Ancora oggi sono i migliori in tutto il mondo. Snake, muoviti ed entra là dentro. Quell'Hind sarà presto di ritorno. Vuoi morire ora? Oppure dopo la tua amichetta? Morirò solo dopo averti ucciso. Ma davvero? Beh, almeno sei un tipo spiritoso. Per prima cosa devo uscire di qui. Avanti, sto facendo del mio meglio. Sembrerà strano, ma quando Mantis ha scavato nella mia mente, sono riuscita a vedere la posizione delle mine. Allora, che ne dici? Niente male, eh? Eh sì, proprio niente male. Andiamo avanti. Ad ogni modo, Metal Gear Solid resta l'unico capitolo della serie ad essere stato doppiato in lingua italiana. Infatti, a partire da Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, nessun altro capitolo subirà un doppiaggio diverso dall'inglese o il giapponese, lavorazioni che vengono eseguite sotto la diretta supervisione di Kojima e del suo team. Il sound design di Metal Gear Solid è molto particolare, in quanto si avvale di sonorità piuttosto elaborate, specie quelle delle armi. Ma pesca anche a piene mani dalle sue stesse origini degli anni 80 e 90, rielaborando in chiave moderna alcuni degli effetti sonori stilizzati provenienti dal passato della serie. Infatti nel gioco ci capiterà spesso di sentire suoni di questo tipo. A Metal Gear Solid viene attribuito il merito di aver creato anche delle vere e proprie icone sonore, come il suono del codec con cui Snake può comunicare con i comprimari, e il suono del punto esclamativo che compare sulla testa dei nemici nel momento in cui veniamo avvistati. Entrambi sono diventati una vera e propria firma sonora di tutta la serie. La colonna sonora di Metal Gear Solid è stata composta dal team interno di Konami. Il compositore Tappi Iwase ha scritto il famosissimo tema musicale della serie, che verrà successivamente riarrangiato e rielaborato da Harry Gregson-Williams sugli altri capitoli della serie. Ascoltiamo quello di Sons of Liberty. Sulle colonne sonore dei successivi capitoli della serie troveremo sempre più temi musicali cantati. Uno dei brani più evocativi è senz'altro Love Theme, proveniente da Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, cantato dalla bravissima Jackie Presti in lingua Yiddish e scritto dallo stesso Hideo Kojima. Ascoltiamone un pezzo. Bene, anche per questa puntata è tutto. Io vi do il consueto appuntamento al prossimo episodio di Passione Sound Design. Mi raccomando, visitate i miei blog www.passionesounddesign.blogspot.it e www.carlomix.blogspot.it e iscrivetevi alla pagina Facebook di Passione Sound Design per restare sempre aggiornati. E ovviamente continuate a seguirmi su Dietrologia Videoludica. Alla prossima puntata! E ancora una volta facciamo i nostri complimenti a Carlo. Io, guarda, posso dire una cosa? Grazie mille. Un applauso non messo in post produzione, si sente dallo schifo dell'applauso, è reale. No, dico subito una cosa, così me la levo velocemente, che faccio veramente fatica a definire quale di questi è stato il mio preferito o quale è stato il migliore realizzato o quale è stato il più interessante. In realtà è stato sempre un crescendo dalla prima puntata in poi, e difficilmente mi ha deluso o che ne so, ho avuto delle aspettative mancate, oppure magari le informazioni erano minori. Il lavoro di ricerca e di composizione di questo lavoro che ha fatto Carlo è sempre stato eccezionale. Ovviamente nelle ultime due o tre ci ha messo anche il tocco ironico, diciamo così, che non fa mai male, come in questo caso, ovviamente con la telefonata con la telefonata di Metal Gear, che è fantastica, e adesso tutte le informazioni sono sempre veramente interessanti, ma è veramente bello il modo in cui era composta, perché ovviamente da professionista conosce il modo, conosce il ritmo, e questo insomma veramente rende ti faccio i miei complimenti a giro. Grazie, sentiamo magari Alex, per esempio. Allora, come ho detto prima, cioè la classe di Carlo è quella che fa sembrare tutto quello che ascolti un'unica grande colonna sonora e non tanti singoli spezzoni. Mm-hmm. Invece Carlo si fa un lavoro eccezionale a prendere tutte queste parti e riunirle in un unico grande discorso che fa da tappeto. Cioè Carlo non dice una cosa e questa interrompe il discorso e poi ricomincia, cioè questa appare sotto e poi scompare in maniera molto fluida, molto, molto armonica. È veramente bello, perché è un documentario che dura 12 minuti, ma che ti racconta proprio col sonoro quelle che erano le emozioni di allora. Dal mio punto di vista sono tornato in casa dei miei genitori con mio fratello a giocare a quel gioco, e anche a bestemmiare ripensando al doppiaggio traballante di allora. Allora, non mollare, rimani con noi. Noi ti vogliamo bene, ti amiamo e ti lecchiamo. Quindi anche tu partecipi alla petizione. Geronto Gamers o PSD? Io peto. No, io PSD tutta la vita. Mi sa che. Allora sei uno stronzo. No, vabbè, lo so. Diamo a Cesare. Give to Caesar what belongs to Caesar. E vabbè, Stefano. Io. Niente, l'episodio mi è piaciuto molto, ma anche gli altri. E invito Carlo, da parte mia, ma anche da parte di tante persone che, come ha già anticipato in privato, non gli hanno detto direttamente, ma me l'hanno detto: ma cavolo, ma PSD è bellissimo, perché deve chiudere, ma cosa gli è venuto in mente, Snake, e cose così. E poi c'è pure quelli, chi fa la corte, chi fa lì, il punto è quello, come ho detto, 100 persone che ascoltano, magari due ti scrivono qualcosa e magari gli altri 90 pensano comunque che gli altri 90 gli hanno offerti i soldi, lo danno le mani scontato, dove ben sapete, insomma, sul cazzo. Mentre ascolti il podcast, al di là di dove mettere le mani mentre ascolti il podcast, c'è sempre la cosa che i feedback spesso sono difficili da avere in maniera diretta da sconosciuti, diciamo, tendenzialmente di più dalle persone che conosci. Il punto è che è un giudizio che magari può essere influenzato dalla simpatia che puoi avere per quella persona, tra virgolette. Poi se c'è qualcosa che non va bene, diciamo, uno tende a dirlo, almeno ci si augura che un amico, un conoscente, una persona con cui sei legato in qualche maniera te lo dica, ci si augura. E il punto è che, esatto, io sono del partito team PSD, continua, perché il prodotto di qualità estremamente alta, fatto da una persona che si occupa di queste cose di professione, non è una cosa che secondo me si vede tutti i giorni o che si trova gratuitamente in giro, così trattata da chi si occupa di queste cose. Quindi l'approccio del videogiocatore unito all'approccio del professionista, diciamo, che si occupa di audio, che chiama Audacity. Scusa, però, cioè, voglio dire, così è facile, cioè, è come gli stronzi che ti fanno you. Scusate, volevo dire. Ciao. No, Alex poi si arrabbia. No, vabbè, io ti fai il cagliare, quindi non c'è nessun problema. Perché l'ho sentito l'altro giorno, allora mottifiamo pure per. No, solo il cagliare. Cioè, almeno per me lì. Quindi Geronto è tutta la vita. No, scherzo comunque. No, e... ecco, non è che c'è bisogno di scegliere tra uno e l'altro. Si possono tranquillamente fare tutte. No, dico, bisognerebbe farle tutte e due. Il problema è che in realtà so, è Geronto che è ancora più stupido in realtà. Cioè, se sei veramente stupido da fare, in realtà a me mi leva quella mezza giornata di tempo che non... ma è quella, fare le cose stupide ci vuole quasi più tempo che fare le cose serie forse, perché devi renderle stupide, poi magari... perché se... ci impegniamo. Cioè devi seriamente farle stupide. Noi siamo maestri a renderlo stupido. Ma io infatti sogno un passione sound design dedicato ai Geronto Gamer. No, passione Geronto Gamer. Passione Geronto Gamer. Sì, sì. O passione PGM. Sound Geronto. E poi voglio ricordare Carlo, sempre a Berlino, che entra nell'hotel... Così hotel, è hotel è una parola grossa. L'hostel, anzi, dove siamo stati torturati. E... credo però che il termine esatto più che entrare sia salgono. Sì, esatto, salgono. È salito qualcosa con una maschera antigas e un cappello. È vero. E l'hanno fermato in aeroporto. Poi, quella cosa. Ma io questo no, non l'ho fermato no, per no, il fantasmino di Pac. No, ma hanno fermato per il Pac. Sì, esatto, fermato non potevano concepire che quello. Non può essere che uno va in aeroporto col cappello e la maschera antigas. Insomma, c'è qualcosa di sospetto. Tutto sommato, no, avevo un cappello dell'Unione Sovietica e una maschera antigas. Io mi ricordo che sono. Non mi ricordo, sono sceso e l'ho trovato. Ah no, no, lui è entrato vestito. No, stava così. Seduto sul divano, cioè, sì, tranquillo, è come se niente fosse. E poi parlava, sembrava Psicomantis a proposito di volevo fare il cosplayer di cosa. E salutiamo anche un signore con i piedi scalzi, salutiamo l'amico del Berlino. Sì, sì, no, è vero. Sì, quello che veniva a rompere le scatole a me. A rompere le scatole, quello ci sta a provare. Fantastico. Il signore della tribù dei piedi neri. Surreale. Ha dato tanti balli tra l'altro Gianluca. Sì, no, stavo pensando a come siamo arrivati a parlare di non questo. Lo so, partendo da PSD. Purtroppo succede tutti, succede siamo partiti da Succhioden, da Succhioden all'uomo con i piedi scalzi. Da Succhioden a maschera antigas è non facciamo diventare l'episodio troppo fetish, sì, ragazzi. O fetish. No, ma volevo chiedere, Carlo, ma la voce del generale di Metal Gear Solid italiano è quella del tizio di Notturno che dice noi? Sono sempre i stessi, sempre quelli, oddio, perché la voce è quella là. Sì, non so, sì. Io ti posso dire che là comunque c'è stato un po' un pastrocchio, come dicevo pure in puntata, insomma, c'è stato un po' un pastrocchio con il cast. Sì, quelli erano, cioè, gente che è un po' raffazzonata da... Sì, però se tu sei, ci sono le voci di quel team che doppiava i videogiochi a quell'epoca là, erano tutti, cioè, erano tutti non doppiatori, già fatti male. Sì, certo. Beh, vabbè, ma al tempo penso che veramente era molto più semplice fare queste cose, anche perché non c'era quasi niente di meglio, per cui alla fine erano veramente periodi non sospetti. Adesso se facessi una cosa del genere saresti veramente la merda proprio, cioè verresti proprio condannato proprio. Per cui no. Già a distanza di anni in questi casi, insomma, come vedi, si continua a ridicolizzarli. Però vedi, è bello che poi passione sound design possa essere anche un veicolo di approfondimento comunque generale, magari non lungo, in 12 minuti ci fai il focus sul sonoro, però tu comunque fai anche panoramiche, descrizioni su quello che è anche tutto il resto del gioco, delle informazioni generali sulla serie, quindi poi si parla di sound design, in realtà si fa anche una ripetizione di tante altre cose. La parte sound design è straordinaria come sempre, in questa puntata sicuramente pure tra le migliori, insomma. Grazie mille. E quindi è bravissima, tra... un bel zanzare, così si diffondeva ancora di più. Ma poi il PSD non è il file da Photoshop, virus, scusatemi. Anche? Sì, un po' sì. Anche così volevo dire. Infatti poi arriverà Carlo, gli chiuderanno il sito e tutto, e arriveranno i legali di Adobe, certo. a chiedere i danni. No, guardi, c'è un attimo un fraintendimento, ma vabbè, dice Comunque non so se avete visto le trasmissioni TV che fanno, diciamo, tipo Game Time, sì. Questa roba qua, insomma, che a me fanno abbastanza ribrezzo, diciamo. Ecco, se io fossi uno di queste persone che prepara queste trasmissioni, prenderei una PSD, lo munirei di video. Ma ci stavamo a pensare, pure noi abbiamo discusso con Carlo. Scusate, ma una cosa del genere su YouTube, però con un video sotto fatto bene. Ma state a farvi rubare le idee, cioè se lo state dicendo adesso. Sì, sì, non c'ha tutti i torti. No, ma ti dico proprio come taglia tutto. Taglia sto pezzo, taglia sto pezzo. Cioè non c'ha torto stavolta, giustamente. È che non riaggancia, te riagganciate in qualche modo. Ok, quindi secondo me è una trasmissione assolutamente completa che va sì. Oltre il solo sound design e comunque sia in tutti i dettagli straordinaria. Proprio quello che diceva Alex l'ho anche riscontrato nell'ascolto, diciamo, in anteprima che ho avuto stasera. Quindi questa fluidità del suono, questi spezzoni scelti con estrema cura. Io non riuscirei mai a neanche a pormi il problema di dover fare una cosa del genere, quindi si denota una professionalità straordinaria. Io spero che tu continui, perché ma guarda, io però posso aggiungo anche un'altra cosa, che il discorso tecnico, quindi la qualità, quella che dici tu e quella che ha detto anche Alex, e per certi versi paradossalmente è la parte che mi colpisce di meno, non perché non sia qualitativamente eccelsa, ma perché comunque, sapendo anche quello che fa lui, diciamo, tra virgolette lo do per scontato. In realtà a me quello che rende veramente professionale sto lavoro è la fase di concept, cioè la fase di preparazione, la preproduzione, la scrittura, certo. Cioè il fatto di fare un discorso proprio giornalistico, cioè lui fa un servizio giornalistico con la qualità del documentario, no? E questo secondo me è la cosa che a me risalta di più, perché non è arraffazzonato, è completo, è coerente nel dialogo, nel viaggio che fa in quei 10 minuti. Ma il problema è che siamo disabituati alle cose fatte come Bravo. Qualità, ma proprio per l'era YouTube che stiamo vivendo, ma per tutto quello che facciamo comunque anche noi un pochettino, no? Cioè alla fine siamo tutti hobbisti, tutti amatori di quello che facciamo. Nel momento in cui ci imbattiamo in una figura come Carlo, che è un professionista che ha imparato determinate tecniche, che ci mette anche la passione e quindi di conseguenza l'attenzione, l'amore, la voglia di fare qualche cosa di bello, cioè allora la differenza è che Carlo vuol fare una cosa bella, lo fa preparando delle schede molto curate, un'ottima idea di fondo, una struttura ben pensata, e tutto ciò viene coronato dalla bravura con cui riesce a farlo anche per quello che è il suo lavoro. Chiaro che il suo lavoro è quello che poi collega tutti i puntini alla perfezione, però i puntini ce li mette prima, quindi c'è un'ottima idea, e che non siamo abituati a metterci tutti quanti la cura e l'impegno che ci mette Carlo. Però guarda, quando fa al di là di tutto, innanzitutto, vabbè, Gianluca, io ringrazio, ma io ringrazio tutti voi, insomma, io so che voi siete i miei sostenitori. Anche me che non ho detto ancora, esatto, non ho espresso niente. No, io ringrazio comunque tutti, basta, a prescindere, perché insomma so che voi siete stati i miei sostenitori, avete spammato queste lavorazioni che ho fatto e tutto il resto. Io, ecco, come diceva Simone all'inizio, quando pensavamo a questa rubrica sul sound design, a fa due chiacchiere sul sound design, io non volevo impostare il lavoro, diciamo, passatemi il termine, non volevo ricalcare un po' quello che era, che sono state le orme di persone. Io, prima di iniziare questo percorso di passione sound design, non avete idea di quanto abbia campato su YouTube per capire se qualcun altro aveva avuto questa idea, cioè di un'idea che esulasse comunque il discorso di ok, adesso vi facciamo sentire il doppiaggio di questo titolo, sentite che merda. Certo. E senti quello, allora quello abbiamo fatto pure e noi. E poi, capito, cioè il mi piace, non mi piace, a me interessa fino a un certo punto, perché comunque il doppiaggio è un discorso assolutamente a sé. Per cui quello che a me suona terribile, come magari in questo caso con la puntata che abbiamo ascoltato di Metal Gear, io mi ricordo in passato proprio litigavo al tempo proprio dei forum, delle cose, quando frequentavo i forum, litigavo con persone perché dicevano che era un doppiaggio ben fatto, cioè per cui la cultura sul doppiaggio incide molto, cioè, su quello che poi è il gradimento, litigavo vabbè insomma fra mille virgolette, però gente che comunque proprio difendeva doppiaggi indifendibili, ma indifendibili proprio perché avevano comunque una tara proprio tecnica e organizzativa. Vabbè, che ma io però, imperdonabili, come abbiamo detto tante volte, magari si difendevano perché comunque uno era grato del fatto già che c'era il doppiaggio stesso, certo, poi erano sentiva che erano delle merde, però dicevano beh comunque per quella che è la situazione tutto sommato sono ben fatti insomma. Per cui ecco, poi passa la palla quando hai finito, passa la palla a Peppe. Per cui ecco, solo questo, insomma, io cercavo di fare veramente un po' un percorso, un po' come è stato con la puntata insomma del doppiaggio dei videogame, eccetera eccetera, tutte quelle erano le figure di contorno al doppiaggio, comunque cercavo di fare qualcosa comunque che in qualche modo fosse in qualche modo didattico. Poi è ovvio che insomma alcune cose sono uscite da sé, cioè nel senso io poi mi sono occupato la maggior parte dei giochi che erano comunque giochi io per primo ritenevo comunque belli, che mi erano piaciuti per non necessariamente per il doppiaggio ma in generale perché comunque i giochi avevano rappresentato magari delle icone o comunque delle chiavi un po' di svolta, no, del settore, e per cui però ecco diciamo tutta quella che è la parte creativa, devo essere sincero Simone, ma stupisce anche un po' a me insomma per essere riuscito insomma a collegare i concetti, a creare magari delle sinossi di giochi abbastanza complessi, appunto uno tra tutti Metal Gear, che effettivamente certo. Vanno a riassumere insomma è una bella per sì, cui però quelle cose sono uscite un po' da sé e boh, no, io per primo spero di continuare, ma poi ti romperanno le palle così tanto che lo farai. Sì. Ma pure Giuseppe, se volevi aggiungere qualcosa, perché lui doveva commentare in effetti. Certo. Ma io volevo dire invece che no, guarda, non mi piace. Che schifo, a cagare. No, a parte gli scherzi, io poi di quelle che hai prodotto ho apprezzato poi pure più o meno come mie preferite, sia quella su God of War, dove ho anche scoperto alcune cose che non sapevo, devo ammettere, quindi mi hai permesso di colmare alcune lacune. E poi vabbè quella fantastica su Dead Space ovviamente. Ah beh sì sì, sì. E invece vorrei che appunto continuasse anch'io, aggiungo la mia voce al coro delle richieste, e in particolare come richieste mi piacerebbe tanto qualora tu riprendessi, come mi auguro, due PSD, uno su Mass Effect perché ci vuole, e l'altro certo. sulla saga di Uncharted. Effect, parliamone, sì. Perché non ne abbiamo mai parlato. Ne abbiamo parlato poco, sì, è vero, non è mai capitato. No, ecco, una cosa, un consiglio che sentivo spesso era di, vabbè, ovviamente di farli come preferisci, basta che li fai, e anche magari di giochi più attuali, diciamo, non tanto come per questioni di gusti quanto per avere più successo, tra virgolette. Cioè per una questione più il problema dei giochi attuali, che cioè tu intendi giochi attuali quelli ancora non usciti, no, sul mercato, oppure adesso mi viene in mente, vabbè, però fai Batman Arkham Asylum, la colonna sonora sì. Per esempio il primo PSD è uscito più o meno a distanza di pochissimo tempo dall'uscita di Shadow of Mordor, quindi era considerato attuale, no, linea di massima, infatti cioè, va benissimo così, però poi Carlo ha preso e ha fatto retromarcia. Voi dovete considerare che comunque le scelte ricadono anche quando Carlo, suppongo, riesce a trovare anche gli assets sufficienti, certo, o del materiale tecnico che sia valido per poter fare quel tipo di discorso. Non è detto che sia poi soprattutto diciamo tutti quelli che sono gli approfondimenti tecnici delle puntate, tutte quelle cose che comunque io ho detto, magari cose che non si trovano così facilmente in rete o su YouTube o cose del genere, quelle sono frutto comunque di chiacchierate che ho fatto con i doppiatori o di corrispondenza che ho avuto con gli studi di doppiaggio che hanno lavorato sui progetti. Alcuni si sono rivelati molto disponibili nel come dire insomma foraggiarmi di questo tipo di informazioni, altri invece si sono proprio cioè ma da serie okay, abbiamo altro, da fare. Vabbè, insomma, rispetto anche ovviamente, anche perché ho lavorato pure io tanti anni in doppiaggio, quindi non è difficile riuscire a stare non dietro. Solo, capito, diciamo che Carlo ha fatto anche e fa ogni tanto anche il doppiatore. Sì, vabbè, sì, insomma, io come si è capito, volta, insomma, anche su un trailer. Esatto. Per cui sì, sì, insomma, quello è ovviamente non è solo ricerca di cose su internet, ma è anche, insomma, anzi ringrazio pure tutti persone, insomma, dietro le quinte che probabilmente non conoscerete mai, che mi hanno aiutato, insomma, fornendomi tutte queste informazioni che, insomma, ma a noi ci piace pensare che hai fatto tutto da solo. Va bene, dai, che ho fatto tutto da solo. Ma io invece aspetto con ansia il prossimo PSD dedicato, lo avevi accennato in una puntata di The Space, a Mirror's Edge. Adesso ora gli fa gran gioco Mirror's Edge. Esatto. No, gran gioco. In realtà io e Carlo Burigana abbiamo un progetto che metteremo su Kickstarter, chiedendo poi l'autorizzazione a Electronic Art del ridoppiaggio del primo Mirror's Edge con la voce di Tea Falco. Sì, che quindi a quel punto sarebbe vero, Carlo, dillo che abbiamo questo progetto. Sì, sì, assolutamente. Tutti in dialetto romanesco, però possibilmente. Shut up and take my money. Ok, va bene, dai, ragazzi, andiamo alla posta velocemente. Così. Poi insomma, leggiamo anche gli ultimi, che c'è tanta roba, e cerchiamo di essere un po' veloci, perché magari rischiamo di andare un po' lunghi. Quindi siamo vai, già lunghi. Vai, andiamo. Con cara filosofia dietro ludica. No. Carissima videologia dietro ludica. No, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Videoludica. Vabbè, va. È uguale. Allora, vediamo chi è che, insomma, abbiamo un sacco di roba da leggere, anche perché alcuna è rimasta un po' arretrata, alcuna riguarda ovviamente, come abbiamo detto, il buon Carlo, insomma, perché c'è la gente che lo ama e lo aspetta sotto casa. Con le marce. Carlo, mi raccomando, quando ti arrivano le minacce di morte e le lettere quelle scritte con i ritagli di giornale, allora la comincia a pensartela, mi raccomando. Sì, non proiettili che devo rimettere nel pod. PSD non deve morire. Esatto. Attenzione. come misteri morti. Esatto. Ok. Quindi può essere pure che lo rapiscono. Lo mettono dentro su un letto, glielo spezzano le gambe. Che bello, che bel futuro che hai, Carlo. Va bene, andiamo con la posta, Marco. Dal sito abbiamo Alessio Rosati che commenta la puntata La solitudine del hardcore game, scritto in maniera improbabile. Ciao ragazzi, un applauso a tutti voi per questa altra grande puntata. Un applauso speciale per Carlo, e qui cominciano suoni di violino. Il grande lavoro che c'è dietro la sua rubrica Passione Sound Design è immenso e di altissimo livello, ed essendo io stesso musicista so benissimo cosa significa lavorare in questo settore e tutte le difficoltà che ne conseguono. Mi dispiace molto solo che questa rubrica verrà molto probabilmente eliminata a causa dello scarso feedback dato dagli utenti, che invece dovrebbero apprezzare di più invece di seguire le stupidaggini di YouTube propinate da FaviJ più da Pai. Ma vince FaviJ. Più di Pai. Secondo me è più dai Pai comunque. No, è più di Pai. Sì, cazzi, è compagnia bella. È una vergogna il fatto che la rubrica come Passione Sound Design, insieme ovviamente a tutti i podcast di IPN, in particolare quelli che amo di più come Dietrologia e L'Occhio, non venga apprezzato da un numero maggiore di ascolti. Ma purtroppo viviamo in un mondo sbagliato, in un altro mondo parallelo, ricordiamo, dove io sono Stefano morto. Biggio, tu sei morto, Stefano Biggio si fuma il crack dei cadenti. DVL ha un successo planetario. Esatto. DVL siamo andati in America proprio perché tu sei morto, 12 e milioni, però il fondatore è morto. Esatto, per quello che siamo proprio. Infatti, da ogni puntata tutti dicono sempre: ricordiamo sempre la buon'anima che esatto. È morto con la storia del Vicente. C'è una preghiera iniziale ogni puntata. Io capisco la decisione di Carlo, perché spesso mi trovo nella sua nella sua stessa direzione e mi chiedo: ma chi me l'ha fatto fare di studiare musica da quando avevo 9 anni, che ora ne ho 38, e diplomarmi quando ci sono persone che non sanno nemmeno dov'è il do centrale. Ce lo chiediamo anche noi, diciamo. Esatto, ma non lui, in generale. Carlo, dov'è il do centrale? Dovrebbe stare vicino Anzio, tra Anzio e Fregene. Ma guadagnano milioni con una qualsiasi canzonetta stupida e senza senso. Ti capisco, Carlo, credimi, sono con te, ma ti posso dire di non mollare e non scoraggiarti. Prima o poi la gente si sveglierà, almeno lo spero. Complimenti anche a Simone per aver messo in evidenza il grande lavoro di Carlo dietro ogni nuovo episodio di Passione Sound Design. Grazie di tutto, ragazzi, e speriamo che grazie, IPN grazie anche io qualcuno mi cita, non chiuda come è già stato annunciato pochi giorni. E invece mi dispiace, in ma bocca al lupo per tutti. A dicembre IPN chiude, questo è ufficiale, l'abbiamo grazie, già comunicato. Poi a ottobre ci sarà un incontro a Milano che verrà anche pubblicizzato per quello. Vediamo cosa fa, vediamo cadavere, cosa succede. La cosa ufficiale è state a dicembre chiude e poi, il primo gennaio 2016 finisce il mondo. Il mondo, chiaramente, chiaramente. Certo, con minimo. Quando il PN chiude, il buio calerà su tutti noi. Da Facebook invece Mirko Romanato ci scrive: voglio che Passione Sound Design continui, dai cazzo. Questo è un commento. È il cazzo che da forza. Infatti, c'è anche postato una foto dopo, però non è possibile visualizzare. Sempre sulla puntata dell'Hardcore Gamer, Luca Neronzio: Carlo, non farti problemi. Out when is ready, come dice la CD Projekt. Prendi il tuo tempo e qualcosa ce la fai. E loro ne sanno qualcosa. Quasi salutare Neronzio, che è un mio concittadino trasferito, anzi, mio conterraneo. Chiamo trasferito in Toscana. Povero Neronzio. Proponici quello che ti stimola. Conterraneo o conterroneo? Conterroneo. Curi una rubrica meravigliosa. Nessuno ti obbliga a scadenze fisse e quello che fai difficilmente non lascerà un segno. Con le critiche serie ci si sciacquano le bocche degli stolti. Dunque, qui noi l'abbiamo fraintesa poi questa cosa, perché abbiamo subito detto: no, ma come cazzo ti permetti? Invece no, in faccia, perché noi pensavamo che ce l'aveva con noi sulla puntata dell'Hardcore Gamer, invece no. Momenti da foto, un famoso sito, ma su un'altra puntata. Avanti, ragazzi. Ma non è un sito fotografico, è l'utente. Sì, so, sempre so. Da Facebook. Ma scherza. Ma è sull'indie, però non è sull'indie, infatti, posto, penultima puntata, okay, prima della pausa estiva, spero. Edoardo Cecere dice: Bruno Barbera, sorpresa, graditissima. Infatti, sono sorpreso anche io. Totus von Sciara. Io pure mi sono sorpreso. Siamo tutti sorpresi. Totus von Sciara, c'è giusto le folle in copertina. Provato qualche giorno fa, sembra interessante, ma i movimenti del personaggio sono veramente uno schifo. Neronzio anche bella Nero. A me le animazioni piacciono, sì, di default immagino, semplici ma efficaci. Quando cammina si sente anche il suono Cyborg che fa. Vabbè, io ci sto giocando e il feedback flashback Another World cioè, quindi. Poi c'è Giulio Pavan che è incazzatissimo, cioè, la soppressione di Passione Sound Design è inaccettabile. Io non ci sto. Io non no. Una rubrica unica nel suo genere e che mi ciuccio come il midollo dell'osso buco. Non deve e non può prendersi al cospetto delle solite minchiate che adoro, perché mi dava l'illusione di sentire un podcast colto e udito, cosa che non si ha. Esatto, l'illusione. Esatto. Grazie. Almeno una volta al mese, perché l'altra volta fa la merda. La rubrica sparisce, giuro che vi sporco di cacca, di carne, le maniglie delle portiere delle vostre auto. Ma si sente? Sempre Giulio Pavan. Mi ricordate la prima ragazza che mi ha detto baciamoci e basta, malvagi. Vabbè. E farà brutti! Che poi questa ragazza gli ha sporcato di cacca di cane le maniglie. Da lì che è cominciato tutto. Esatto. Sul forum di oggi si è scatenata la lira di Sambu. Come così, al solito. Allora, tanto per cambiare. No, qui è molto tranquillo. Ascoltate la puntata sul tema principale, non ho molto da dire. Il da discorso dai. Di essere art gamer o no, frega poco. Più che altro quello che leggo come l'impressione che chi gioca attualmente ora non badi per niente ai contenuti. Molti si accostano ai vari titoli indipendentemente dal genere allo stesso modo, qualificando l'esperienza su parametri incomprensibili per me. Valutare la propria esperienza sul completamento di tutte le cavolate da sbloccare, per esempio, solo per dimostrare qualcosa ad altri. Io su questo sono d'accordo. Altra cosa che non capisco dei giocatori moderni è voler far tutto in una run, perché il gioco si esclusivamente usa e getta. E questa è l'era di YouTube, ricordo sempre. Sì, no? Però. Per valutare usare la parola esistenza. È anche l'era consumismo, che ormai diciamo infatti, Paolo dice, perché valutare la propria esistenza su base solo di così oggettive? Perché non sei capace di valutarla da un punto di vista personale e quindi soggettivo? Vuol dire che come opera non ti ha lasciato niente? E un hardcore gamer dovrebbe giocare tutti i generi, per me è semplicemente che si ha a che fare con una persona che ancora non ha fatto un minimo di discernimento personale, non ha compreso il proprio gusto personale. Riguardo PSD, dispiace. È veramente una rubrica di altissima qualità, personalmente trovo difficoltà a commentare perché essendo di livello superiore è difficile esprimere qualcosa di intelligente e utile. Ma PSD finisce proprio perché ci fa sfigurare tutti. Certo. Dice no perché mette in ombra. Mi dava la sensazione che era un bel podcast. L'unico motivo. Esatto. Dice, tutto il resto è fatto a cazzarella. PSD, no. Però c'era PSD, lo ascoltavo solo per quello, tutto il resto l'uomo andava avanti. Ma c'è il rischio che se prendi PSD lo togli da dietrologia videoludica, che è terribile, ci fa una figura peggiore, no? Perché sembra una cosa normale, invece nella merda che la circonda bellissima, è ancora più bella di quello che è. Quindi è anche discriminatorio. Come la demo di tipo la tizia che c'è con la mica brutta, così è quella bella. Esatto, perfetto. È una tendenza di Ancient One, è una tendenza indiscutibile e molto spinta anche dalle grandi compagnie, sempre di hardcore gaming e cazzi vari. Dunque, qualche volta di rado ne sono stato vittima anch'io, vedi quindi quando mi misi in testa riuscendoci di platinare Red Dead Redemption. In un certo senso è l'evoluzione di tendenze che ci sono sempre state. Parlo del giocatore completista, quello che nel GDR dove deve vedere tutto, esplorare tutto e massimizzare tutto. Ma valutare una cosa soggettivamente comporta avere un gusto, e per avere un gusto è necessario avere una cultura, e per avere una cultura è necessario sacrificio, mente, critica, tempo da investire, tutte cose che non sono d'ostacolo al mercato di d'ostacolo al mercato di massa e che quindi non vengono promosse. Un'altra considerazione estremamente intelligente. La risposta dal mio punto di vista è la stessa da prima: il consumatore deve consumare di tutto il più possibile. La stessa cosa avviene in cucina, che praticamente lui dice: più si prova, più si sale di livello gastronomico, più si prova ribrezzo per le tavolate in cui si mangiano chili di bistecca fiorentina. Si mangia di meno, ma si desidera mangiare meglio e più sano. Da tempo ritengo che il concetto di hardcore gamer coincide sempre di più con il giocatore di massa e di Mass Effect. Sambu poi risponde, penso, ma non aveva risposto prima. No, scusate. Perché questa era no, quella era un'altra puntata. Ti sei perso, questo era l'antico che diceva queste cose. L'antico. Ma quanta cazzo ce n'è di posta, ragazzi? Tanta. Avete rimandato la posta per 3 anni per farla tornare. Esatto. Puntata molto interessante, un tema molto, perché questa è l'ultima puntata, un tema molto vasto, quello dei giochi indie. Un tema che non è stato sì, è un po' scritto de corsa, diciamo. Un tema che non è stato messo nel è il fenomeno di indipendizzazione. Si può dire? Sì, ma non fa cazzo. Niente. Di alcune aziende di alcune aziende di medie dimensioni, troppe Z mi fanno male. Che non vogliono più dipendere ed essere limitati artisticamente dai grandi publisher. Aziende, penso più altro in ambito GDR come l'Arian, Exile, Obsidian, che stanno cercando di trovare varie. Vabbè, una loro fisionomia per non subire più le condizioni e le angherie dei mulini a vento di chi mette i soldi. Mi viene sempre in mente le angherie dei mulini a vento, come tagli brutali per anticipare l'uscita del gioco in un certo periodo o bonus legati a parametri come Metacritic, ne ricordate Obsidian e KOTOR 2 e New Vegas. Di fatto per alcuni si sta ribaltando il mondo con indie finanziati da publisher e medie aziende che cercano di reperire fondi in tutti i modi per rimanere vivi. Beh, sì, questo è un po' un discorso complesso che bisognerebbe poi magari rientrarci anche forse magari con Gianluca possiamo anche ipotizzare ma sì, andiamo avanti circa 3 ore su questa puntata che siamo belli freschi. Andiamo sul canale di YouTube sul video delle 3 e abbiamo quasi finito. Esatti. Tarki Gigo, The Last Guardian potrebbe spingermi a comprare una next gen perché ora non ne sento il bisogno, ma neanche un po'. Marco Paglia, aspetta di vederlo realizzato, esatto, perché finché non lo vedo non ci credo. Ha fatto soltanto una demo di 45-6 minuti. Quello mi spinge a venderla. Esatto. Forse. I giochi che mi hanno interessato maggiormente sono Final Fantasy VII Remake e Shenmue 3. altri due che non vedremo mai. Veramente, no, il primo lo vedremo oramai. Shenmue può darsi. Secondo, però, sperando nell'uscita anche per PC. Avendo completato Mass Effect 3 due settimane fa, mi interessa parecchio Andromeda. Sebbene il mio gradimento per la serie sia in continuo calo, rigiocherei più volentieri Mass Effect 2 e non sei il solo per la quarta volta che Mass Effect 3 per la seconda. Questo è vero. No Man's Sky sembra molto bello, ma dal video sembra ci sia ben poco da fare. Carlo, complimenti per la maglia. E qui abbiamo grazie la maglia, perché no, abbiamo finito la posta, inventiamoci altre lettere, dai, vai. Io però, due ringraziamenti, qualche messaggio privato, roba del genere. Sì, io ho due ringraziamenti velocissimi da fare. Io ringrazio Alberto Cappellina che ha commentato tra l'altro su, sulla pagina Facebook, insomma, ha espresso anche lui insomma il suo dispiacere per bla bla bla, per Passione Sound Design. Mi ha fatto molto ridere, diciamo, il suo punto di vista sul fatto che insomma secondo lui è quello che faccio è imponente, insomma è quasi la dinamite per andare a pesca, insomma mi è piaciuta molto la metafora, insomma, quindi lo ringrazio e lo saluto, devo dire. E poi ringrazio anche Roberto Zanotti che mi ha contattato invece in privato e mi ha fatto i complimenti per la rubrica, insomma, quindi ragazzi grazie a tutti. Io ringrazio anche tutti i restanti, insomma. Ringrazio veramente tutti che avete espresso il vostro affetto, insomma, e vedremo di ritornare, insomma, l'affetto e se lo facevate prima l'affettato anche. Allora, ragazzi, dietrologia videoludica per questa stagione finisce qui. Allora ringrazio Marco Gualdi. Ciao, ma io posso fare dei ringraziamenti specifici? Che tu farai dopo, ma li voglio fare io personalmente. Va bene. Faccio un ringraziamento a Cesare e a tutta la sua combriccola, quindi a Gusella e al fratello che non ricorderò mai come si chiama. Mai, però mai. Tanto sempre ai Girali Brothers. Marco Pisellonio, poi a Luca Maldera. Luca Maldera che ha fatto tanti belli articoli, ripetiamolo, come l'ultimo in cui ha intervistato il CT del nazionale di Hattrick che andrà a giocarsela in non so dove, Bangkok, non so dove cacchio va. Nazionale di chi? Di Hattrick, cioè un gioco online tipo game, però lui fa il CT col calcio. Esatto, lui fa è il CT della nazionale, se andrà a giocare da, quindi ha fatto tutta questa bella intervista anche in Megoglioni. Belle cose, grazie tanto a Luca, grazie anche a Antonio, a Nino, il nostro Nino Nicita, che quest'anno qualcosa ha fatto, però non mi ricordo. Però poteva impegnarsi di più. Però poteva impegnarsi di più, ragazzo è intelligente ma non si è impegnato. Sì, sì, sì. Tutte le e mie poi, pagine. Non so, gli altri che non cito, che citerà. Vabbè dai, ci arriviamo insomma. E quindi grazie Marco comunque, sempre della tua collaborazione. Ringraziamo anche Roberto Bertoni che ha creato poi questa alleanza tra Italian Podcast Network e All Games Italia, che è una poi se l'è tirato dietro, poi se n'è andato poi se n'è andato, però vabbè, cioè, diciamo vabbè che... ragazzi ha un duplice lavoro di spalatore di feci, no? Sì sì, ma non solo quello in realtà l'hanno comprato, cioè come quello che vorrebbero fare pure con Buricana, cioè qualcuno è andato lì e ha comprato il tesserino, purtroppo non c'è niente per due soldi, no però io sono contento, allora comunque lo ringrazio perché poi l'alleanza e l'amicizia tra All Games Italia e IPN è molto più forte di quanto c'è possa sembrare, noi li citiamo e basta, però in realtà condividiamo tante cose insieme, pure il server, quindi insomma voglio dire alla fine c'è proprio un percorso insieme, è un po', cioè. Esatto. Ringrazio Stefano Biggio. Grande Stefano Biggio, perché insomma l'ideologia videoludica è nato anche grazie a lui, anzi è morto anche grazie a me, soprattutto grazie a lui, quindi saluta. Vabbè, Stefano, dai, grazie. Sì, io per non far un torto a nessuno ringrazio tutti in generale, tutti, per sono contento di essere finito nel multiverso dove Pizzi non è morto, mettiamola così. Esatto. No, perché quando ho letto che mi sono cagato sotto e no, ma pure io no, ma immagino che a te la cosa si sia però a posteriori esatto. Sì, quello è un classico, no, ma ripeto, sono contento, insomma preferisco poco e piano piuttosto che niente e male e da una parte non c'hai tutti i torti, insomma, comunque, quindi ringrazio voi che ci vogliamo bene, voi e tutti, ecco, perfetto. Continuiamo i ringraziamenti con Antonio Nicita, chiaramente, che comunque ha sempre dato un minimo il suo contributo in IPN in generale, ma anche in DVL. Salutiamo e ringraziamo anche Luigi Marrone, che nell'ultimo tempo ovviamente ha avuto veramente anche questioni di lavoro, impegni che comunque lo hanno un po' portato, dice, lontano da DVL, e vabbè, insomma, nel senso, speriamo di riaverlo la prossima stagione. Ringraziamo, come ha fatto ovviamente Gianmarco, anche Cesare Giraldi, nonna Mandraiola, che noi sappiamo chi è, ma insomma ce lo teniamo, chi ha cambiato nome, ce lo teniamo per noi. Simone Gusella, chiaramente, che è, insomma, con il quale insieme al caro Cesare, insomma, hanno fatto tante belle cose insieme. Ringraziamo Gianluca Santilio. Ciao, grazie a voi, ma veramente, perché anche DVL per me è un'esperienza simpaticissima e che mi fa sempre quasi piacere, sembra di qualità, quindi quasi no, veramente, secondo me il gruppo è il segreto di tutti i podcast, perché nel momento in cui ti diverti a fare delle cose, allora funziona tutto bene, diciamo, dai. E grazie veramente a voi, a tutti quelli che poi hanno partecipato con me ai podcast. Cristiano Crendo abbiamo già salutato prima, lo risalutiamo e lo riaspettiamo prossimamente. Saluto anche Bruno Barbera, che l'altro nell'ultima puntata mi ha fatto compagnia, e così va bene, via, va bene. Salutiamo, quindi, sì, chiaramente Cristiano Caliendo per la collaborazione che sta dando a DVL, che è una collaborazione sempre preziosa. Salutiamo e ringraziamo Giuseppe Saso. Io ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso, che continueranno a seguirci anche nel futuro, indipendentemente dalle forze. Poi ovviamente ringrazio tutti voi, specialmente quelle persone con cui che magari ho avuto anche la possibilità pure di incontrare dal vivo e che frequento anche magari anche spesso, con cui si è formata, diciamo, una comitiva che va anche ben oltre le passioni videoludiche, no? E poi ci tenevo anche a precisare, a questo punto, già che stiamo ringraziando tutti, non ci vogliamo dimenticare di nessuno, quel fantastico tizio di cui ignoravo sinceramente fino a poco tempo fa, fino a un paio di mesi fa, la sua esistenza, che poi, diciamo, ho conosciuto e che mi ha anche inquietato all'inizio, invitandoci in quel gruppo segreto, che è un nostro ascoltatore, che è Ghost, speriamo che lo pronuncio bene, Ghost in Out. Il tizio pure che c'ha, diciamo, l'avatar con la maschera di Guy Fawkes di Before Vendetta. Beh, Ghost in, però stai in uno spazio tempo diverso dal nostro. Sì, può, vabbè, questi saluti probabilmente per un paio d'anni, però esatto. Io continuo a essere convinto che era giusto che sia mio padre, era giusto ringraziarlo, ha dei punti ha detto giusto comunque Giuseppe, perché anche tra tutti gli ascoltatori che abbiamo salutato è giusto salutare anche una persona che poi è stato sempre veramente attentissimo, che nei suoi commenti ci ha fatto anche ammazzare la risata, e che è anche un genio dei fotomontaggi, ricordiamolo. Poi ringrazio anche Alberto Semprini e Logan Singer, ovviamente Logan da Cerebro e anche l'altro podcast, insomma, di PSN. Ringrazio, come ha fatto Marco, ovviamente anche Lucacchio e Carlo Burigana. Grazie a voi, ragazzi. No, veramente io ringrazio voi, sono onorato proprio di essere entrato, insomma, in questo team e tutto, insomma, appunto, come diceva giustamente Giuseppe, al di là di quello che è il, tra virgolette, lavoro di podcast, di videogame e tutto il resto, comunque si è instaurata comunque un'amicizia, e anche come diceva Simone qualche ora fa, diciamo, in puntata, e questo, insomma, quando si trovano nuovi amici è sempre una cosa bella, quindi veramente grazie veramente per il vostro affetto, e anche, insomma, sappiate, anche i sostenitori di Sound Design, di Passione Sound Design, è bene che lo sappiano, che senza dietrologia videoludica, senza Simone Pizzi, senza Marco Gualdi in particolare, senza Giuseppe, visto che eravamo, diciamo, proprio materialmente dentro una stanza noi quattro, non sarebbe mai potuta avvenire, quindi veramente grazie, io ringrazio voi proprio. E ringraziamo Alex Raccuglia. Ciao a tutti. Dai. No, beh, un abbraccio a tutti quanti, ascoltatori di DVL e non, soprattutto i non. Vi voglio tanto bene, vi leccherei tutti. veramente piacere che ci leccheresti. Chiaramente anche Mario D'Amore, ma soprattutto ringraziamo e salutiamo Marpo, perché insomma ha dato anche lui quel quid in più insomma a questa trasmissione durante l'arco di quest'anno. E poi abbiamo scoperto che esiste, abbiamo scoperto esatto. Che esiste anche tra l'altro anche... No, esatto. Io speravo in conferma, e ha delle camicette meravigliose, sì, quindi dico soltanto questo e... No, ma non vi siete fatti foto? No, aspetta, niente. No, no, aspetta, no. Scusate, vi state dimenticando di un'altra persona che veramente non solo ci ha nostro ascoltatore ovviamente che ci ha supportato tanto, ci ha anche ricoperto di regali a tutti. Gesù, cazzo, c'è ragione. Gabriel Cap. Il nostro arcangelo protettore. Arcangelo Bellecchia, grandissimo. Grandissimo, e che a me è rimasto qua, che ancora voi l'avete incontrato, io non gliel'ho fatta. Il re degli ascoltatori di podcast. Esatto. In qualche happening, cioè qualche altro evento che ci sarà a futuro, spero di poterlo. Ma lui ci ha offerto anche il pranzo, diciamo, Marco, quindi insomma, e non solo, ci ha fatto anche dei regali, quindi è una cosa che mi è rimasta veramente impressa. E ovviamente il fatto che lui ultimamente commenta di meno, non è che ci ha fatto dimenticare lui, cioè, no. Però chiaramente il commento ti aiuta insomma a non farti sfuggire queste cose. Dai, detto questo, ragazzi, un saluto a tutti quanti, grazie veramente della collaborazione, dell'impegno che ci abbiamo messo. Ringraziamo veramente tutti quanti gli ascoltatori, non abbiamo più altro da dirci, andatevene tutti un po' a culo. Giocate, buona estate, divertitevi, esatto. Buone vacanze. Ciao Luigi. Nel caso, Gianluca, mangia tranquillo. Mangia tranquillo. Flawless victory. This podcast has been produced with Pod Cleaner. This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Days sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CR-V, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HR-V with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days clearance pricing today. I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.